Zanzara con Alessio Maurizi. 18:31, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, 824 0024, un'altra serata insieme fino alle 21 con i vostri interventi, 349 238 6666, potete scriverci alla zanzara @radio24.it. Cominciamo con i titoli del TG2, sentiamo. I genitori di Yara davanti alle telecamere lanciano un appello per la liberazione della ragazza, imploriamo pietà a chi la trattiene, nuovi rinforzi per le ricerche. Stangata in arrivo nel 2011 da oltre 1000 euro a famiglia è la previsione delle associazioni dei consumatori, rincari maggiori per alimentazione e trasporti. Un centinaio di automobilisti bloccati il 17 dicembre scorso nel maxi ingorgo sulle autostrade a causa della neve respingono il risarcimento della società e tentano una class action. Elogio del terrone nel film Che bella giornata di Checco Zalone, ma la vera figuraccia, sottolinea il regista, la facciamo tutti noi con le nostre ipocrisie. Una vera e propria spy story. La procura distrettuale di Bari, ne riepiloghiamo alcuni passaggi, ha aperto un fascicolo per attentato per finalità terroristiche o di eversione in relazione ai contenuti dell'editoriale di ieri del direttore di Libero Maurizio Belpietro, che come sapete parlava di un progetto di un attentato al presidente della Camera Gianfranco Fini. Quello che sappiamo fino ad ora è che all'interno di questo fascicolo però c'è solo l'articolo di Belpietro. Nell'inchiesta, la prima credo che si ricordi preventiva rispetto a un'ipotesi di attentato, si ipotizza l'eversione dell'ordine democratico, in quanto l'obiettivo dell'attentato paventato è un'alta carica dello Stato. Ma il colpo di scena è che, secondo quanto risulta sino ad ora, il presidente della Camera non avrebbe in programma alcuna visita ad Andria per la prossima primavera. E il direttore di Libero Maurizio Belpietro, che si è tirato naturalmente addosso qualche reazione, qualche critica per l'opportunità di avere scritto questa notizia, ha detto, ho parlato col giudice in procura, però non ho fatto il nome della mia fonte che mi ha rivelato questa notizia. Ora, se davvero c'è un rischio per la vita di Fini, forse valeva la pena di violare il segreto professionale del giornalista Belpietro, forse, almeno una domanda che mi sono fatto io. E poi Belpietro dice, ma che prendersela con me, dovrebbero ringraziarmi per quello che ho scritto, sentiamolo. È venuta una persona da me e mi ha riferito una vicenda legata a un tentativo di attentato che riguardava il presidente Fini. Ho raccontato i fatti dicendo non sono in grado di appurare se davvero corrispondano al vero. So per certo che però questo signore ha fatto dei riferimenti e non capisco quindi la reazione, il braccio di ferro, anzi semmai dovrebbero ringraziarmi. Infatti Fini l'ha ringraziato e lo ha querelato, altro che ringraziato. Beh, certo è difficile immaginare, uno scrive che Fini va sostanzialmente, letteralmente a puttane e l'altro dovrebbe ringraziare, beh insomma. È così la spy story, la reazione dei finiani naturalmente fanno quadrato attorno a Fini, così Briguglio. La nuova campagna scandalistica contro Gianfranco Fini ha l'obiettivo di fare dimettere il presidente della Camera e di delegittimare il nuovo polo della nazione. Non riusciranno né nell'uno né nell'altro intento. Insomma, se sembrava tregua, anche se dopo il passaggio del voto di fiducia-sfiducia a governo la settimana scorsa tra i futuristi e il PDL, adesso sembra che invece la guerra sia riaperta a suon di scoop, di articoli e di, come dire, di prese di distanza reciproche tra il PDL e Futuro e Libertà. Questa è la Spy Story e tra poco ne parleremo ancora. Adesso però cambiamo musica e cambiamo argomento, perché è rientrato il caso delle dimissioni di Stefania Prestigiacomo. Noi ieri avevamo cavalcato la notizia, diciamo, c'è un caso all'interno del governo, e invece sui rifiuti, sull'ambiente, invece no. Oggi la dichiarazione clamorosa rivelata al settimanale Chi, una sede politica forse non idonea, non lo so, giudicate voi, per un ministro che dice no, non mi dimetto al PDL, va tutto bene. Noi ieri avevamo detto le donne non ci stanno, i rifiuti delle donne, avevamo titolato così e avevamo anche dedicato una musica. Dov'è finita la signora Yolanda, che ieri ha chiamato al nostro centralino e con lei molti altri dicendo... la Prestigiacomo ha avuto coraggio, le donne hanno coraggio, ha denunciato le lobby in Parlamento contro che difendono i rifiuti, eccetera eccetera, parole dure quelle della Prestigiacomo ieri sul Corriere della Sera. Oggi però è finito tutto in una bolla di sapone. Allora aveva ragione forse Elisabetta Gardini, europarlamentare del PDL, che aveva preconizzato, no guardate, come la Carfagna neanche lei si dimetterà, perché lo spiega lei. Senta, se se ne andassero dal partito, come hanno lasciato a spelare i gossip, queste due persone, come... Capirebbero che... Io mi auguro di no, perché sarebbero molto amareggiate, secondo me, da rendersi conto che una volta che sei uscito cala il sipario. Io cerco boschi per me. Già, cara il sipario, cara Prestigiacomo, insomma, portare fino alle estreme conseguenze le proprie dichiarazioni, il gesto delle dimissioni in nome dell'ambiente non si può fare, perché se no, come ha detto la Gardini, cala il sipario. (824) 0024, anche su questo ieri sera ci sono stati molti interventi su questa preteso coraggio delle donne, che noi appunto avevamo voluto chiamare così, i rifiuti delle donne. Andiamo ad un altro argomento, perché comunque la si pensi, Vittorio Sgarbi è sempre uno che non la manda a dire, a Cortina Incontri ha dato le sue pagelle di fine anno ad alcuni protagonisti della vita pubblica. Cominciamo con Bondi. Ora io mi chiedo come sia possibile avere un ministero del tesoro che prescinde dai beni culturali, perché abbiamo Tremonti che è il re dell'oro e Bondi che è un poverino tutto lì nascosto che alza la mano, non si capisce perché. È evidente che noi dovremmo avere in Italia un ministero del tesoro dei beni culturali, quello è il ministero del tesoro, non un altro. Certo, Sgarbi sa parlare, e se avesse realizzato un decimo delle cose che ha detto e proposto, forse l'Italia sarebbe un paese migliore. Vabbè, così invece Sgarbi su Berlusconi. Berlusconi, quando dice è la nipote di Mubarak, è un genio, neanche il conte Mascetti in Amici miei può arrivare a tanto, cioè ci vuole, è proprio una fantasia titanica. E lei, che è una spalla formidabile, non dice Berlusconi è un porco, no, giustamente, cioè, per me Berlusconi è come la Caritas, che è la battuta più bella degli ultimi 10 anni, cioè Berlusconi è come la Caritas e lei è la nipote di Mubarak, cioè i due possono fare il teatro più formidabile del mondo perché sono battute meravigliose, no? Aggiungo che anche Sgarbi potrebbe fare un teatro meraviglioso. E così invece due stilettate nei confronti di due donne al governo Berlusconi. Cominciamo con la Brambilla. Il turismo, come voi sapete, in Italia non c'è. È stato abolito e destinato alle regioni, è rimasto un dipartimento. Per cui, trovandosi con un'altra ragazza a cui voleva dare tutta la sua ammirazione, Berlusconi è il primo che ha fatto un ministro di un ministero che non c'è, che è la Brambilla. La Brambilla è ministro di un ministero che non esiste. E questo ce lo sospettavamo in molti, sono in molti forse a pensare che il Ministero del Turismo, ma mica solo quello della Brambilla, anche se dietro c'è la questione delle competenze, come diceva Sgarbi, passate alle regioni. Così invece su un'altra esponente donna del governo, il sottosegretario all'attuazione del programma, credo, Daniela Santanchè, che non cita ma di lei parla, sentiamo. come ha fatto con la Santa Chiesa. La Santa Chiesa dobbiamo fare tutti i giorni, chiede un ministero, le diamo il ministero più utile, quello di Rotondi, sottosegretario all'attuazione del programma. Il programma non c'è, l'attuazione la fa ognuno per i cazzi suoi, cioè è divertente avere un sottosegretario all'attuazione del programma, cioè sono solo per questo va ammirato Berlusconi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco, prima salutiamo, buonasera, benvenuto a Filippo Rossi. Buonasera. Responsabile di Fare Futuro Web Magazine, è così? Ebbene sì. Ebbene sì, insomma della parte web di... Ammetto. Della comunicazione di Fare Futuro, che fa riferimento a Fini, a Futuro e Libertà, adesso c'è proprio il gruppo, poi ci sarà insomma il partito e tutto il resto. Rossi, per prima cosa le chiedo di commentare l'editoriale di Belpietro. Adesso abbiamo detto è stata aperta un'inchiesta a Bari, anche se nel fascicolo per ora c'è solo l'editoriale di Belpietro, quindi un bel cortocircuito politico, giudiziario, informativo. Per voi però cosa si tratta? Dell'ennesimo attacco del diciamo polo berlusconiano nei confronti di Fini? Ma sì, vabbè, certo, questo è quello che hanno detto i politici. Io da giornalista lo ritengo incommentabile. Io l'ho riletto pochi minuti fa per aggiornarmi, diciamo così, a futura memoria. È un articolo senza senso, senza capo né coda, giusto per riempire un po' di piombo e per attaccare il Presidente della Camera. Forse gli è sfuggita la mano, un po' di solidarietà al povero Belpietro che magari dormiva mentre scriveva il pezzo. Il piombo si riferiva al piombo della stampa? Sì, ma al piombo della stampa, ma anche al piombo delle parole, perché poi giocare in questo modo con gli allarmismi non fa mai bene a un paese. Questa è una classe giornalistica di destra che deve solo vergognarsi e che per salvare il salvabile del grande capo sta gettando il paese, ma anche la destra italiana, in uno sconforto culturale peggiore di quanto sia mai stato. Senta Rossi, perché io ho commentato il fatto, perché Belpietro ha detto dovrebbero ringraziarmi per queste notizie, io dico, cioè, è un po' difficile che uno che viene additato come uno che va letteralmente a puttane poi ringrazi, diciamo, l'estensore dell'articolo, però c'è un'altra parte del discorso di Belpietro che forse dal punto di vista giornalistico può essere più convincente, no? E anche lei faceva riferimento a questo, non tanto alle chiacchiere politiche. Lui dice: ammettiamo che il piano per colpire Fini esista, io sono in possesso di una notizia e sto zitto, oppure taccio sul Libero, ma corro dal magistrato, gli spifferò tutto, aspettando poi che qualche collega, dice Belpietro, mi dia il buco il giorno dopo, facendomi pure fare la figura del fesso. Che dice? Ma dico che non c'è nulla di pubblicabile, cioè, quante persone vanno nei giornali e dicono di sapere cose? Cioè, se c'è una notizia di un possibile reato futuro, un giornalista va dal magistrato, non la pubblica in questo modo, non c'è nessun riscontro, non c'è niente, non c'è una fonte dichiarata, ovviamente Belpietro non ha fatto il nome della fonte, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ha fatto un articolo sul nulla contro il Presidente Fini, ma poteva essere contro Boffo, contro chiunque, è non giornalismo, il problema è che in Italia forse dovremmo cominciare a non difendere l'indifendibile. L'atteggiamento di Belpietro è stato un atteggiamento professionalmente e moralmente indifendibile. Senta, si riapre la guerra perché, vabbè, insomma, c'è stato il tentativo della sfiducia, Fini ha incassato il tentativo non riuscito e sembrava quasi, non dico che ci fosse una riconciliazione perché è chiaro che non c'è, però c'è una convivenza al governo, diventa ancora più difficile adesso dopo cose di questo genere? Beh, no, intanto non c'è la convivenza al governo perché Futuro Libertà è una forza d'opposizione, ma detto questo io credo che l'unica cosa che prova questo attacco concentrico, guarda caso del giornale di Libero al Presidente della Camera, è che in realtà ancora oggi Gianfranco Fini fa paura, i berlusconiani sono terrorizzati dalla figura politica di Gianfranco Fini perché oggi è l'unico che può dire la parola fine del berlusconismo. Sì, allora io convivenza al governo naturalmente mi sono espresso male, intendevo dire la possibilità di convergere su una serie di provvedimenti, sì, come certo, per esempio il DDL Gelmini o altri che tra l'altro domani Napolitano firmerà. Lei parlava di boicottare Libero a questo punto, anche se liberalmente. parte, è quello che ce lo conferma, cioè lei dice non compriamo più Libero, non è più giornalismo. No, non l'ho detto, non è... Io dico che questo è, poi ognuno è libero di comprare quello che gli pare, non c'è problema. Non è il problema, non sono libero il giornale in quanto giornali liberi. Il problema vero, ma è culturale ovviamente, è che questi giornali sono espressione sostanzialmente culturale della Presidenza del Consiglio, il che è sintomo di una degenerazione politica e culturale dalla quale sarà difficile uscire, e questo è grave. È grave ultimo danno che ha fatto il berlusconismo all'Italia. Sì, anche se Libero non ha direttamente... Ma, no, sì. Vabbè, Belpietro è stipendiato da Mediaset, quindi... Belpietro è stipendiato da Mediaset, beh, non nella funzione di direttore di Libero, insomma. Beh, vabbè, però insomma non, sì, è, che, non è che è schizofrenico. Non essendo schizofrenico... Facciamo una pausa, c'è il traffico, resti con noi, le voglio fare anche un'altra domanda su Fare Futuro e sul ruolo nel web, perché oggi c'è una ricerca che vi cita come quelli più attivi e avete, secondo questa ricerca pubblicata da Repubblica.it, anche così favorito la partecipazione dei giovani alla politica, un bel tema, a tra poco, un attimo la pausa. Dicevo, non siete gli unici, non siete i soli ad essere citati su questa ricerca, insomma, la nuova cittadinanza che cresce col crescere della presenza sul web, soprattutto dei giovani, però Fare Futuro Web pare che insomma abbiate fatto un buon lavoro. È così che cresce, Rossi, anche la partecipazione dei giovani alla politica, un tema di cui si sono spesi milioni di parole. Ma sicuramente, ma in realtà sarebbe una cosa scontata, è ovvio che la rete è la nuova Agorà, è la nuova piazza telematica, quindi là dove c'è confronto si cerca sulla rete. La rete fa qualcosa in più, mentre le piazze, diciamo così, tradizionali, fatte di cemento, San Pietrini erano piazze separate, quindi piazze dove ognuno parlava per sé, nell'online, sulla rete ci si confronta con tutti e con tutto. Senta, a me però ha colpito una cosa, che in questa indagine veniva citato, oltre che oltre voi, anche insomma altri gruppi, associazioni, gruppi di idee, anche il movimento di Grillo per esempio, però né Grillo né Fini, che sono un po' i motori di questi due anime almeno delle informazioni sul web, non sono esattamente due giovincelli. Anche questa volta i giovani vanno a rimorchio, mi verrebbe a dire, oppure mi sbaglio, invece è tutt'altro quello che circola nel web da questo punto di vista. Beh, no, non è esatto, io parlo per noi, nel, sì, senso che Gianfranco Fini ovviamente l'ispiratore di Fare Futuro, ma poi la responsabilità me la prendo tutta io di essere andato qui sul web in questo modo dialettico, insomma, e aperto alle nuove generazioni. No, non credo, il problema è di innovazione interiore, cioè chi è in grado di capire quanto il mondo sta cambiando con la rivoluzione online e quanto invece pensa la politica come una cosa vecchia. Bene, grazie, buona serata. Filippo Rossi, Fare Futuro Web Magazine, 800 24 00 24. E allora cominciamo a prendere le telefonate e iniziamo da Salvatore, che ci chiama da Como. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ho chiamato per intervenire, ma già l'intervento del signor Rossi ha già anticipato un po' tutto. Quello che mi meraviglio da privato cittadino, e com'è possibile che certi giornalisti, non sto a guardare il suo diretto di sinistra, cioè si svegliano la mattina e fanno certi articoli. Mi sembra che come se la campagna, quello che verrà a marzo è già cominciata. Mi sembra quasi che i giornali di destra cominciano adesso a fare già campagna elettorale, cominciare a demonizzare qualsiasi persona in questo momento, perché adesso preso di Fini sicuramente prenderanno di mira qualche un altro dopo, tanto poi non vengono puniti in ogni caso, l'hanno già fatto con Boffo, non c'è problema, abbiamo sbagliato, scusate, ma se un privato cittadino fa una cosa del genere poi viene punito, Belpietro fa quello che vuole, mi sembra un po' esagerato questa cosa. Grazie. Non c'è controllo. Grazie, andiamo a Fortunato che chiama da Bergamo. Buonasera. Buonasera. Prego. No, io sono rimasto attonito quando ho saputo che il ritiro delle dimissioni è stato dato a chi? Niente da dire su questa testata nelle sue. Parliamo del ministro Prestigiacomo, poi chiariamo perché magari non tutti hanno seguito. Prestigiacomo, sì. Che ha detto a chi? Il settimanale di Alfonso Signorini, che non si dimette dal PDL, la questione è rientrata. Esatto. Sì. Non ha usato un'agenzia di stampa, non ha usato quelli che sono abitualmente i mezzi di comunicazione dedicati. Probabilmente questo ministro, devo dire, non posso dar torto a Sgarbi quando fa alcuni commenti sulle donne ministro, senza nulla togliere alle pari opportunità. Il problema è che questo teatrino, queste cose che assistiamo e sentiamo alla radio, alla televisione, non fanno altro che allontanare la gente come me dalla politica. Per cui il partito di maggioranza relativa nel nostro paese è l'astensionismo, il non andare al voto. Allora mi chiedo, se le cose dovessero continuare in questa maniera e i partiti non si avvicinano più alla gente, quindi facciano ritornare amore verso la politica, che è servizio alla gente, mi chiedo con che legittimazione potranno governare quelli che avranno un elettorato del 50%, perché il 50% non andrà al voto. Beh, quello dell'astensione è un bel problema davvero, perché anche se sappiamo che è una tendenza storica, insomma un abbassamento, però ci sono dei livelli fisiologici oltre i quali sarebbe davvero preoccupante andare, insomma, speriamo di no. Non lo so, un modo potrebbe essere quello appunto di seguire l'informazione sul web. Lei segue l'informazione sul web politica, sì, dove c'è, sì, forse anzi, più libertà. Devo dire che Fare Futuro, sì, sta seguendo con i dovuti rapporti quello che ha fatto Obama. Obama ha basato la sua gran parte del suo successo elettorale sul web, sulla rete. Sì, l'ha usata sito, molto. È sì. Famoso il suo sito Obama Everywhere. In effetti Obama ha investito molto sulla rete, ha investito molto sui giovani. Questi giovani, che tanto se ne parla, io ho 61 anni, e con questa manovra d'estate, nessuno, o meno, ho sentito nelle trasmissioni che sì, non si andrà più in pensione, ma si prenderà la pensione con le finestre mobili dopo un anno, oppure un anno e sei mesi se è lavoratore autonomo o parasubordinato. Chiedo a questo sì, punto, i giovani quanto potranno avere accesso al lavoro, visto che si tende sempre a tenere i vecchi al lavoro? I giovani che cosa potranno fare? Va bene, anche se poi il fatto, insomma, dei ruoli in politica è un'altra cosa, lì ci si va col consenso, e il consenso questi politici ce l'hanno, insomma. Comunque va bene, andiamo avanti. Chi abbiamo? Paolo dalla provincia di Massa Carrara, buonasera. Buonasera, faccio un intervento velocissimo. Sì. Ma innanzitutto i problemi, diciamo, del nostro paese credo che siano ben altri. Altro che rispetto a cosa? Scusi. Di Pietro, Belpietro, i suoi problemi, gli attentati che aveva fatto a se stesso. Addirittura era riuscito a dire questa persona in pochi secondi che correva giù per le scale, e poi la casa di Monte Carlo. In Italia abbiamo ben altri problemi, lo dovrebbe capire il signor Berlusconi, lo dovrebbero capire molti altri, soprattutto penso anche ai suoi elettori. Innanzitutto, a parte la crisi economica che ci sta attanagliando, ma questa trattativa appunto che avviene a Mirafiori è incredibile, perché verte soltanto a togliere i diritti agli operai, alle persone che ogni giorno si spaccano la schiena, e veramente questi sono i veri problemi che ha questo paese. Poi Belpietro può dire quello che vuole, Fini oramai è uscito dal PDL, e perché lo abbiamo capito anche noi di sinistra, lo abbiamo capito perché probabilmente c'è, diciamo, una voglia di Berlusconi di comandare, di imporre sempre il suo pensiero, e probabilmente a Casini prima e a Fini poi non è andato più bene questa cosa, perciò sono uscite la maggioranza, e adesso bisogna fare i casi di Monte Carlo, l'attentato Fasullo, che non mi ricordo dove doveva andare, Fini, a Andria mi pare. A Andria, sì. Sembra veramente questo mi sono dimenticato, scusi, mi consenta di dirlo ai suoi collaboratori, non so se ha visto l'intervista di Carlo Azeglio Ciampi fatta circa 3 settimane fa, un mese fa, da Serena Dandini. Ma l'ha detto lei di 3 settimane fa, quindi facciamo un passo in avanti. Fermiamoci qua, grazie. 18.56, adesso c'è il giornale radio, torniamo subito dopo. 800 24 00 24. La zanzara. 824-0024, ben ritrovati. 349-238-6666. La zanzara è radio24.it. Riprendiamo e come ogni sera a quest'ora andiamo con i titoli dei telegiornali. Sky TG24. I genitori di Yara, convinta che sia viva, lanciano l'appello: ridateci nostra figlia. 4 arresti dopo la strage a Vibo per il procuratore, peggio di un delitto di mafia. Civitavecchia, scontri tra polizia e pastori sardi, volevano manifestare a Roma. Rifiuti a Napoli e allerta per Capodanno, domani vertice con il governo. Consumi, in arrivo una stangata da 1000 euro a pesare alimentari e carburanti. Fini annuncia querele a Libero e Giornale, a Bari si indaga per attentato eversivo. Fiat Pomigliano, in corso del tavolo per il rinnovo del contratto, sindacati ottimisti. Superato l'allarme neve negli Stati Uniti, riaprono gli aeroporti sulla costa est. All'Inter inizia l'era Leonardo, domani la presentazione, il primo allenamento. Rocket Dad, Elton John è diventato padre, il figlio nato da una madre surrogata. Così Sky TG24, c'è la notizia di poco fa, c'è sempre Facebook nel mezzo, ricordate la vicenda del dipendente dell'ATAC, l'azienda romana dei trasporti, sul cui sito, profilo di Facebook erano apparse delle frasi antisemite. Bene, Francesco Bianco, che tra l'altro è un ex terrorista dei NAR, dipendente dell'ATAC, coinvolto nello scandalo a Parentopoli, è stato sospeso dall'azienda del trasporto pubblico di Roma dopo che erano comparse sul suo profilo di Facebook parole antisemite contro il presidente della comunità ebraica di Roma Pacifici e anche insulti contro gli studenti che avevano manifestato contro la riforma Gelmini. TG3. Fini, querela Libero per gli articoli su escort e attentati, Futuro e Libertà, ci vogliono annientare il PDL, il confronto resti sul piano politico. Contratto Fiat, ora tocca a Pomigliano, la FIOM prepara lo sciopero, Marini giusto l'accordo ma no a discussioni, Nichi Vendola in diretta al TG3. Tariffe, benzina, servizi, raffica di aumenti in vista nel 2011, una stangata da 1000 euro a famiglia, meno soldi per gli statali. Appello dei genitori di Yara, la ragazza scomparsa da un mese a Brembate, ridateci nostra figlia, siamo convinti che sia viva. Pastori sardi diretti a Roma per protestare, fermati a Civitavecchia da polizia e carabinieri e denunciano trattati da criminali. Dopo un mese passato sul tetto dell'università i ricercatori tolgono le tende ma non fermano la protesta, bloccheremo le lezioni. Come Schindler, anche il campione del ciclismo Gino Bartali salvò dalla persecuzione nazista centinaia di ebrei. Nuove rivelazioni. È una vera e propria spy story, quella originata dall'editoriale di Maurizio Belpietro sul Libero. La procura distrettuale di Bari ha aperto un fascicolo per attentato per finalità terroristiche di eversione in merito appunto all'articolo di Belpietro che parlava di un presunto attentato a fini in una sua visita ad Andria. Al momento però nel fascicolo c'è solo l'editoriale di Belpietro. Ma attenzione, perché il colpo di scena è questo: a quanto si apprende non è prevista fino ad ora nessuna visita ad Andria del presidente della Camera Fini. Belpietro, che ha detto non rivelerò neanche ai giudici la mia fonte, noi ci permettiamo di dire a Belpietro che se a rischio c'è davvero la vita di Fini, forse varrebbe la pena di non rispettare il segreto professionale e di rivelare questa, questa fonte che forse sa qualcosa di più. Poi Belpietro dice, altro che prendersela con me, dovrebbero ringraziarmi, sentite perché. È venuta una persona da me e mi ha riferito una vicenda legata a un tentativo di attentato che riguardava il presidente Fini. Ho raccontato i fatti dicendo non sono in grado di appurare se davvero corrispondano al vero. So per certo che però questo signore ha fatto dei riferimenti e e non capisco quindi la reazione, il braccio di ferro, anzi semmai dovrebbero ringraziarmi. E infatti Fini l'ha ringraziato querelandolo. Eh sì, perché è partita la querela di Gianfranco Fini a, al direttore di Libero Belpietro. Mai non si contano più le querele tra i due. E vabbè, così abbiamo riassunto anche la spy story, l'abbiamo chiamata così, originata dalle dichiarazioni che potrebbero anche essere serissime e preoccupanti, insomma, di Belpietro, che ha acceso il dibattito con questo suo editoriale ieri, su cui è tornato anche oggi. Però insomma, allo stato attuale mi sembra più che altro che ci sia appunto un cortocircuito giornalistico, politico, giudiziario. Ripetiamo, nel fascicolo a Bari per ora c'è solo l'editoriale di Belpietro. Politica, perché in queste ore si parla, naturalmente, ma da giorni, di un possibile ingresso dell'UDC nella maggioranza. Qualcuno, qualche sito di indiscrezioni scrive già che Bondi, il ministro Bondi, è pronto a farsi indietro, è un po' in difficoltà su di lui. Tra l'altro si voterà la sfiducia, non so quando, alla ripresa a gennaio, per la questione di Pompei. Sarebbe pronto a farsi da parte per far entrare un ministro dell'UDC. A questo sembra che si stia lavorando, così Cicchitto, che è capogruppo del PDL. Noi lavoriamo per avere sia l'adesione di parlamentari singoli, sia avere un confronto che ci auspichiamo che si risolva positivamente con l'UDC. Questa seconda ipotesi è aperta e evidentemente la verifica l'avremo nel mese di gennaio. Tra le frattaglie, diciamo così, del PDL c'è anche Pionati, che però non la pensa come Cicchitto, anzi, cioè dice aprire l'UDC mai è come aprire al nemico. Sentiamo Pionati. Solo qualche giorno fa Casini ha cercato in tutti i modi di far cadere Berlusconi. Portare l'UDC in maggioranza significherebbe oggi portare il nemico in casa. E allora sentiamo come la pensano i diretti indiziati, proprio quelli dell'UDC, Rocco Buttiglione, sentiamolo. Per l'UDC è stato un anno buono, per gli italiani invece no, io avrei preferito il contrario. Per l'UDC è stato un anno buono perché si è visto che avevamo ragione quando abbiamo detto che questo sistema politico non funziona. La politica si è distaccata drammaticamente dagli interessi degli italiani. È rientrato il caso delle dimissioni di Stefania Prestigià come ministro dell'Ambiente. Ha detto oggi no, non mi dimetto dal PDL, non c'è più evidentemente un caso. Lei aveva parlato di lobby sulla questione dei rifiuti in Parlamento che lavoravano contro di lei e contro le misure sulla tracciabilità dei rifiuti. Ebbene, è una dichiarazione quella di Stefania Prestigiacomo che fa discutere, se non altro per la sede in cui è stata ospitata, perché è niente po' di meno che il settimanale Chi di Alfonso Signorini, non proprio, come anche qualche ascoltatore ha detto, una sede politicamente così abituale per dichiarazioni di un ministro o di un politico, insomma. E tra l'altro la Prestigiacomo, che era stata così tra virgolette accusata di aver avuto una crisi isterica, le lacrime della Prestigiacomo, ha detto finiamola con questa cosa, non sono una bambina, non devo crescere, come ha detto qualcuno. E poi dice in questa intervista a Chi, finiamola con la psicologia femminile da rotocalco, proprio al settimanale Chi, che si occupa di gossip letto tra l'altro dalle donne. Prestigiacomo, così no, insomma, almeno doveva fare una conferenza stampa, convocare qualche giornalista serio, ma non che il Signorini non lo sia, ma insomma, che tratta normalmente queste questioni. 800 24 00 24 che abbiamo? Abbiamo gli ascoltatori che sono in linea, già molti. Cominciamo con Luca che chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Credo di essere un po' una mosca bianca nella platea del pubblico di questa trasmissione, ma sinceramente mi sento di spezzare ben più di una lancia in favore di Belpietro. Finalmente qualcuno, sì, è giusto, perché fino ad ora nessuno l'aveva difeso. Prego. Ho letto attentamente l'articolo dell'altro giorno. Da un punto di vista professionale mi sembra ineccepibile. È vero la parte che riguarda, diciamo, la confidenza sull'attentato, lui dice io non rivelerò la fonte, ma nell'articolo lui dice ci sono altri dettagli che non riporta nell'articolo e che probabilmente quando la magistratura lo ascolterà, probabilmente riferirà e serviranno a dare un quadro verosimile del racconto, altrimenti sarebbe un folle che si getta con la macchina contro il muro. Per quanto riguarda la prostituta, è stata anche videoregistrata l'intervista, quindi io... Ecco sì, però su questo c'è un piccolo giallo, perché anche oggi in una dichiarazione di Belpietro lui dice non ho mai detto che ci fosse una l'ha scritto una videoregistrazione. L'ha scritto però, infatti, l'ha scritto, però oggi pare che l'abbia smentito, dicendo che non è sicura questa cosa qua, che c'è una videoregistrazione. Lui sa soltanto che questa persona ha rilasciato queste dichiarazioni anche in altre redazioni. In ogni caso, vede, io penso che un giornalista famoso, affermato come Maurizio Del Pietro, non ha bisogno di fare queste, di farsi esplodere con la cintura di esplosivo. Tra l'altro, mi dispiace che Filippo Rossi è andato via da un pezzo, ma il giornale Libero non è di Berlusconi, casomai è di un editore che era vicino a Gianfranco Fini, anche perché datore di lavoro del fratello di Gianfranco Fini, e è stato candidato, quindi nominato grazie a Gianfranco Fini. Poi la linea editoriale del giornale, io trovo, sinceramente, mi dispiace che lei da collega non l'abbia difeso, trovo sempre brutto quando si scade a dire è pagato perché lavora in Mediaset. Allora Filippo Rossi si potrebbe dire, allora tu stai con Fini perché tuo fratello è stato messo in Rai da Gianfranco Fini. Cioè, se si scende a questo livello è un volare di stracci che credo non faccia bene alla qualità del dibattito. Lo so, sono tali e tanti, però le reti, diciamo, le file della rete dell'impero economico e editoriale di Berlusconi, che si cade sempre in questa cosa. Per la verità, io ho fatto presente a Rossi, visto che lei dice mi tira in ballo, che Belpietro come direttore di Libero non c'entra nulla con Mediaset, anche se ha una rubrica su Panorama, questo non vuol dire nulla. Comunque, grazie. 800 24 00 24, anzi, a questo ascoltatore la precisazione dedico, perché le parole di Belpietro, che dice: non so se esiste un filmato, ma a me non risultava di un filmato, leggo virgolettato di oggi da Lanza, spiega Belpietro, ho detto solo che c'era una persona che girava in alcune redazioni che raccontava questi fatti, quindi su questa registrazione è giallo. Rocco, che chiama da Bologna, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Senta, io le volevo porre due quesiti. Prego. Attuali. Io faccio un premesso che ho 46 anni, perciò diciamo siamo nella metà della nostra vita lavorativa. Bene, noi già sappiamo a partire da adesso che non sappiamo se ci daranno il 50% della nostra pensione, dei contributi che noi già stiamo versando ora, anzi ci dicono fate una assicurazione privata per poter vivere. Scusi, non però non vorrei essere invadente rispetto al suo intervento, ma di che stiamo parlando? Di pensioni? Sì, pensioni, sì. Però volevo allacciare al discorso di Marchionne, della Fiat. Perché noi facciamo tanti sforzi per proporre argomenti di attualità e però lei mi parte dalle pensioni, da Marchionne. Su Marchionne, velocemente. Sì, no, perché sembrava di Belpietro, dai, mi sembra che ci stanno prendendo per in giro tutti quanti. Questo è un problema fra Fini e Berlusconi e che se la riguardino loro, perché noi italiani, francamente, vogliamo sapere cosa vogliono fare per il nostro bel paese, se c'è rimasto di qualcosa di bel paese, perché francamente rimane molto perplesso su questo. Poi su Marchionne volevo dire questo: signor Marchionne, se grazie adesso si trova a dirigere questo grande impero, che lui definisce grande impero, per amor del cielo, si è dimenticato quando il nostro Stato, che lo Stato siamo noi cittadini, l'Alfa Romeo per mantenere i posti di lavoro, perché lo Stato a quel punto non ha fatto il suo interesse l'ha venduto a qualche giapponese o americano che a quel tempo avrebbero dato i soldi, invece che l'abbiamo regalata, e adesso cosa vuole fare? Va bene, grazie. Tra l'altro questa domanda andrebbe girata più che a Marchionne, a chi sta al governo, a chi c'è stato, perché la domanda è più opportunamente da girare appunto a chi ha eventualmente fatto dei favori alla Fiat in passato. 19 e 29, borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 0024 19:33 minuti, 800 24 0024. Riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori, che abbiamo già numerosi in linea, e allora riprenderei, credo, da Tiziano da Treviso. Buonasera. Sì, buonasera. Mi ricollego a un ascoltatore che ha parlato prima al telegiornale sulle notizie del ritiro delle dimissioni del ministro Prestigiacomo. Sì. E la cosa che aveva un po' stupito, diceva, era che le ha date attraverso il settimanale Chi. Sì. La cosa però non è poi così strana, nel senso che il settimanale è diretto a Signorini. Sì. e signorini come influsso su tutta l'area, diciamo, di Mediaset enorme, qualcuno lo paragona a una sorta di, diciamo, tra virgolette, ministro della cultura di questo ministro della comunicazione, perché, ministro ombra, diciamo, di... sì, ma insomma detta la linea, sicuramente sarà un uomo di fiducia, programmi. Sì, sì. E quindi è un modo anche di dare una risonanza notevole, perché comunque è un giornale molto letto, è una rivista nel bene o nel male abbastanza diffusa. Chiaro che è una cosa un po' insolita, però non è molto da stupirsi se si pensa all'orientamento sia del giornale che del suo direttore, eccetera. Quindi, no, ma è proprio una questione di, secondo me, una questione che riguarda la Prestigiacomo, Giacomo, nel senso che lei stessa in queste anticipazioni di questa intervista, perché uscirà il 29 dicembre, dice, per quello che ha pubblicato oggi l'Ansa, finiamola con la psicologia femminile da rotocalco, sollevato un problema politico. Solo che, dice la Prestigiacomo, Giacomo, per certa stampa, se il problema è dei ministri uomini è un problema politico, se si parla di ambiente o di istruzione è un problema da donne. Fare questa dichiarazione qua in un settimanale da donne, ma di gossip soprattutto, come chi, senza offese per nessuno, naturalmente, diffuso, letto, lo leggo anch'io qualche volta quando mi capita sotto mano, però a me fa un po' venire da sorridere, perché la trovo quantomeno una dichiarazione fuori luogo proprio in quel contesto. Sì, però diciamo che è una rivista della parte politica del ministro, sostanzialmente. Indirettamente si arriva lì, quindi va bene, mi sembra chiaro. È un po' in contrasto, ma sì, lei fa soprattutto questa associazione dal punto di vista, ma non c'entra molto, però, perché qui parliamo dell'editore lo stesso, però ripeto, non è un giornale. Non è un giornale che si occupa normalmente di quel tipo di notizie, che quindi venga fuori da lì questa notizia politica, cioè a me mi sorprende, dopodiché poi naturalmente ognuno si tiene le sorprese sue. Andiamo a Fabrizio, che chiama dalla provincia di Roma. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. No, niente, ho cercato perché francamente non ho resistito dopo aver sentito l'intervento di questo Rossi, sì, che mi piace vedere anche in televisione eccetera, che ha sempre questo atteggiamento molto arrogante, molto tracotante, e soprattutto sembra un marziano, perché insomma lui che si vanta tanto di essere, insomma, il curatore Perfini o il signor Tulliani, come io lo definisco, di appunto di questo Fare Futuro Web, ha scoperto che Berlusconi è il padrone dell'Italia in senso negativo, che insomma che tutto ormai degli altri via Berlusconi, forse dimenticandosi che se nel 93 Berlusconi non avesse sdoganato il suo padrone, di Rossi intendo, probabilmente Rossi non stava lì a fare quello che sta facendo, non andava in giro per televisione, radio a sì, funzionare. Però mi scusi, detto, sul merito, perché naturalmente poi ognuno può avere le opinioni, sì, è libero di avere la sua opinione su Rossi e sui Finiani e su Futuro, certo, Libertà, ma se no qua torniamo però un po' indietro. Su quello che ha detto, sì, invece riguardo alla questione di Belpietro, l'editoriale eccetera, su quello lei, ma ha qualche, guardi, commento da fare? Belpietro, sì, commento, che voi dica, io non, uno dovrebbe conoscere meglio i fatti, però penso che Belpietro non credo che sia un pazzo che si inventi le cose, si è arrivato a spingersi anche al rischio di querela, come poi puntualmente è partita da, appunto, dal signor Tulliani, è chiaro che poi non penso che non sapeva che andava incontro a dei rischi anche di natura giuridica, quindi se ha fatto questa cosa, io non credo a questi disegni sempre che c'è il cattivo dietro di Berlusconi, cattivo che vuole, anche perché credo che Berlusconi ne abbia più problemi da una cosa del genere che benefici, onestamente non vedo che benefici può avere Berlusconi che si divulghi che Fini corre pericoli di vita, quindi io non credo a nessuna congiura e credo che se l'abbia fatto da persona adulta e vaccinata e sapendo i rischi abbia avuto le sue fondate ragioni, tutto lì. E poi, se mi permette un'ultima cosa, sì, sempre sul presidente della Camera, io trovo incredibile che una persona che viene eletta, come ormai succede da qualche anno a questa parte, non più come nel passato, dove il presidente del Parlamento era nel contrappeso, no, dei partiti di garanzia dell'opposizione, ormai dal 94 sono sempre espressione della maggioranza, quindi che uno prenda i voti, in primo il mio, io mi sento un truffato perché questo signore ha preso anche il mio voto, è andato lì, è stato messo in una carica, oltretutto si è messo a fare i trabocchetti che gli sono pure riusciti male, dopodiché abbiamo scherzato. Quindi uno, se decide di scendere in campo, cioè l'arbitro, non si può mettere la maglietta di una squadra e tirare in porta, l'arbitro fischia e fa l'arbitro. Quindi lui è che dice che continua, quelli che lo difendono, che continua ad essere imparziale. Non è così, perché non può stare lì sul palco a inveire contro Berlusconi e il giorno dopo si mette la maglietta. Quindi va bene, ma anche questa è una cosa che è stata già detta. Grazie a lei. Andiamo a Gianluca dalla provincia di Pordenone. Buonasera. Ah, buonasera. Prego. Innanzitutto voglio dire che sono lieto di parlare con lei e non con Cruciani, che ha ridotto questa trasmissione ad un circo. Ma non è così, personale. Non è solo sì. Mia, di parecchi amici che l'ascoltano. Io comunque chiamavo in relazione alla frase di Rossi, mi ha anticipato anche l'ultimo ascoltatore, sì. Quando dice che il Libero e il Giornale sono espressione del governo. Io vorrei sapere quale giornale, gruppo editoriale, radio giornalistico o di carta stampata non è l'espressione di qualcuno, di qualcosa. Indipendentemente se spinti o meno dall'editore, comunque abbiamo noi stessi una certa idea, e se abbiamo un'idea scriveremo per quel tipo di gruppo. Sarà difficile che un giornalista dell'Unità vada a scrivere su Libero, proprio perché le sue idee sono quelle. Sì, sì, ma infatti secondo me quello che si può dire... Ha detto un'ovvietà, sì. Sembrava un marziano da Marte che ha scoperto, sì, che i giornalisti sono spinti... Ma infatti secondo me quello che si può commentare dell'editoriale di Belpietro è proprio la stranezza di questa notizia, perché insomma io capisco, l'ho anche detto, lui dice a me è arrivata questa soffiata, dopodiché cosa dovevo fare? Andare in procura a dirla, non scriverla, al rischio che poi qualche altro giornalista la venisse a sapere e mi desse un buco, cioè la scriveva qualcun altro, e su questo... Devo dire che gli do ragione a Belpietro. Per il resto è una notizia davvero molto strana, molto così. Poi speriamo che non abbia seguito, ma rischia addirittura di far venire magari in mente a qualcuno, no? Di far qualcosa di strano, anche se la notizia magari non era fondata. Certe fonti andrebbero verificate sicuramente con molto scrupolo, ma questo penso che Belpietro l'avrà fatto come ogni buon giornalista. Sì, ma... Scusi, sì. Chiunque ascolti Belpietro, secondo me dovrebbero prendere quelle pinze, come chiunque legga qualcosa all'Unità dovrebbe prendere quelle pinze. O sei talmente schierato con gli occhi, sì, chiusi, che credi ciecamente a quello che ti dicono, oppure un minimo di dubbio ti dovrebbe venire sempre comunque con questi tipi di testate. L'ultima cosa, volevo aggiungere un'idea mia, scusi, che non ho sentito da nessuno, magari è già stata detta, magari dico novietà. Secondo me, guardi, la Polidori e Moffa, mi pare Moffa fossero, sono stati due cavalli di Troia inseriti da Berlusconi in Futuro e Libertà. Sono entrati inseriti, sono stati mandati avanti, sapendo già che avrebbero tradito e che al momento giusto, perché così facevano la conta, arrivavano i numeri, ce la facevano, non ce la facevano. Beh, non lo perché so, magari si sono loro che si sono mossi arbitrariamente in un modo piuttosto che nell'altro. Nel Partito della Libertà, che il nome è una cosa ridicola, sì, non c'è nulla che si muove che Berlusconi non voglia. Addirittura. Ma secondo lei è un Partito della Libertà quello? Vabbè, non lo so, me lo dica lei. È proprio l'opposto della libertà, perché secondo lei Berlusconi è un liberale, con i suoi gruppi, con le sue industrie, con le sue cose, è uno che ha lasciato permesso agli altri in modo tranquillo di potersi sviluppare. Guardi solo il caso dei Benedetti come è andata a finire. Adesso però Moffa sta in un gruppo misto, non è mica entrata al governo. Magari per far bella figura, per non farlo vedere come quell'altro elemento lì di Scilipoti intervistato da Cruciani in modi ingegnosi, per non farlo vedere così finita sta nel gruppo misto, ma sono tutte cose organizzate a tavolino. Va bene, grazie. Opinione grazie. Mia. Grazie, andiamo a Gianni che chiama da Lucca, buonasera. Oh, buonasera. Prego. Mi scusi, io chiamavo a proposito di Belpietro. Belpietro che pare diventato esperto di attentati, no? Ecco, sì. Dicevo, ma come mai non parla più del suo presunto attentato del quale rimase vittima, che pare sia stato inventato di sana pianta da quel mitomane del suo caposcorta? Lo sapete o no che fu inventato di sana pianta quell'attentato? Cioè non... Vabbè, adesso questo lo dice lei, non è che fu inventato. No, prendete informazioni, siccome è calato il sipario. Cioè, ce le dia lei le informazioni, ci dica. Le informazioni sono che il soggetto, il caposcorta di Belpietro, nell'occasione è uno con precedenti dello stesso tipo, che è stato praticamente... Sì, con un precedente molti anni fa, quando era la scorta di D'Ambrosio, sì. Fu allontanato dal servizio scorte, dietro sua pressante richiesta fu richiamato ed è stato ritenuto assolutamente inverosimile il suo racconto. dell'attentato di, addirittura ha dichiarato che sarebbero stati esplosi dei colpi senza che l'altro collega suo che attendeva in macchina avesse udito niente. Cioè, in ogni caso, diciamo, se ci fate caso, è calato addirittura il silenzio più totale su quella, su quell'attentato. Vabbè, quindi cioè, lei sostiene che Belpietro faccia degli scoop, dei finti scoop? Delle... No, io sostengo che nel momento in cui vedo la notizia, leggo della notizia di un attentato a Belpietro, nel momento in cui vedo di Belpietro che si atteggia a vittima di un presunto attentato, di Paladino che comunque va avanti, che non teme, eccetera, nel momento in cui le risultanze investigative danno per scontato che sia stata tutta una sola, come dicono a Roma, sì, inventata dal caposcorta, mi sembra che la competenza di Belpietro sugli attentati possa essere messa... Sì, però scusi, ma qui lì era un attentato che lui avrebbe forse subito, qua si sta parlando di notizie che gli sono state rivelate, sì, tutt'altra però, cosa. Però... Naturalmente poi ognuno è libero di giudicare di giudicare appunto gli scoop, e Belpietro come giornalista, i suoi presunti scoop, le sue notizie, se si rivelano poi delle sole, diciamolo chiaramente, allora è chiaro, uno dopo trae delle conclusioni su Belpietro giornalista. Grazie comunque. Andiamo al prossimo intervento che viene dalla provincia di Chieti. Giuseppe, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. E complimenti per la sua professionalità, al pari di Cruciani. Grazie, oh, finalmente al pari, così. L'ho messo al pari di Cruciani. Questo è un grande onore, perché insomma... Senta, io prima sentivo il grande, sì, il grande filosofo sì, Rossi. Il grande volumetrico Rossi, no? Perché volumetrico? Lui è un grande filosofo, ma in volume, no? Per me. Ah, perché me è grosso. Sì, grande, sì, nel senso grosso, sì. È volumetrico. No, volevo dire... piuttosto robusto, sì. Volevo dire che io non sono per niente d'accordo con la sua tesi, cioè che Berlusconi ha il terrore di Fini, che solo Fini può decretare la fine di Berlusconi. Su questo anch'io ho qualche dubbio. Vabbè, parte che... Io dico, ma questo qua si, sì, rende conto che Fini è già tornato in frigorifero come stava prima del 94, quando Berlusconi lo prese dal frigorifero e lo cacciò fuori, no? Lo sdoganò, ma non torniamo indietro. Questo signore qua ha preso anche il mio voto, Fini. Cioè, Rossi difende Fini. Cioè, io sono avvelenato con questi signori qua. Cioè, Fini è un parruccone manovratore di palazzo che non c'è il coraggio di dimettersi, che aspetta che andiamo lì e lo buttiamo giù dalla Camera? Lui l'abbiamo messo al governo, ok? Adesso sta all'opposizione. Lei come lo definirebbe un elemento del genere? Faccio questa domanda a lei. Come definirebbe una persona che viene messo dai cittadini al governo e poi si ritrova all'opposizione? A me me la fa questa domanda? Perché sì, la sì. Fa? Le interessa cosa sì, io sì, ma io suo, sì, diciamo, cioè, come lo definirebbe una persona, perché questa è la realtà, no? Ma guardi, però sono mesi che vanno avanti, forse anni, alcuni dissensi con Berlusconi, tra Fini e Berlusconi, lo sappiamo tutti, hanno riempito le pagine dei giornali, ci sono dei dissensi, sono venuti fuori anche se erano alleati. Guardi quello che è successo dall'altra parte con Rutelli che è uscito dal Partito Democratico, è normale che succedano cose del genere in politica. Semmai l'anomalia da questo punto di vista è Berlusconi, che è riuscito invece con un grande collante in questi anni a tenere insieme anche Fini e Bossi, che avevano alla base forse delle divergenze. Berlusconi era riuscito a tenere insieme, è riuscito fino ad oggi a tenere insieme molte anime anche diverse. Adesso questa operazione non è più riuscita, ma secondo me è una questione politica, non è una questione che riguarda Fini come persona o come traditore. Prego. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, non dico altro, se no mi avveleno ancora di più. Cioè, no, io dico non ci avveleniamo. Sì. Va bene, allora basta, se non dice altro, non dica altro, fermiamoci qua, grazie. Anche perché adesso salutiamo il prossimo ospite. Domani dovrebbe essere firmata dal presidente Napolitano la legge sull'università Gelmini, di cui tanto si è discusso e di cui, insomma, che tante proteste anche ha sollevato nel mondo degli studenti. E allora abbiamo convocato questa sera qua anche per una questione di parentele Luigi Frati, rettore della Sapienza. Non si arrabbi per la questione delle parentele, ma la domanda non dobbiamo fare. Non mi arrabbio, sì, anche perché io penso che l'Italia è un paese nel quale riesce a declinare in grande difficoltà il merito, dopodiché deve ricorrere all'analogia di cognomi, mentre ecco, sarebbe, però, meglio, sarebbe meglio andare a vedere questa cosa del merito, sì, e poi vedere. Lei dirà la sua, insomma, no, nella massima trasparenza. Prima di tutto, però, mi preme farle una domanda, perché sì, quando si è chiusa quella settimana bollente col voto al Senato, sì, le manifestazioni degli studenti, eccetera, eccetera, tra l'altro qualcuno è sceso oggi dai tetti, erano ancora lì a protestare, però dicono che andranno avanti con le manifestazioni, c'è stato un confronto col ministro Gelmini e uno studente gli ha detto che questa riforma non fa nulla contro i baroni, lo testimonia il fatto che i rettori italiani sono tutti d'accordo, e lei gli ha risposto no, non è affatto vero, i rettori non sono con me. Allora ce l'ho davanti un rettore, le voglio chiedere la posizione, allora, dei rettori ufficiali. La qual conferenza dei rettori, il suo presidente, sì, ha largamente appoggiato la riforma, ecco, e diciamo, quindi aveva ragione lo studente. Diciamo di sì, diciamo che per alcune ragioni obiettive, perché non si può andare avanti, c'è un blocco dei concorsi, c'è un sistema di definizione del merito largamente imperfetto, non ci dimentichiamo che noi veniamo da 10 anni di riforme a singhiozzo continue che hanno reso difficile la governabilità degli Atenei, quindi alla fine poi una legge comunque ci voleva. Quindi dire che questa legge fa un torto ai rettori o che i rettori non l'appoggiano è sbagliato. Direi che non risponde alla verità, poi sbagliato, poi ci sono sfumature. Io personalmente ho avuto una posizione, da un lato certamente favorevole ad alcuni principi della riforma, soprattutto quella che nelle parti in cui declina il merito continuamente va bene. Il problema vero è che poi bisogna dire il merito che cos'è. Ad esempio nel settore scientifico-tecnologico che io rappresento, perché sì, sono medico, per dire se uno è bravo o meno, uno va sulle banche dati internazionali, vede se uno ha lavori, se ha l'indice di Hirsch o l'impact factor, citation index, se uno per esempio ha come H index 44 come ho io, e che è un indice molto buono, significa che questa è una persona competitiva in ambito internazionale. Allora, e lo è più complicato nei settori umanistici e giuridici, che è, sì, una delle grandi difficoltà per misurare il merito. Se la Gelmini vuole introdurre questo principio, bisogna vedere se lo si applica, anche bene, perché questo, dentro sì, la legge, attenzione, ci sono norme che sembrano all'opposto di questo suo intendimento. Ad esempio quello che le commissioni di concorso sono fatte con un professore al massimo per università, come dire che i 50 professori di fisica della Sapienza, fra cui alcuni candidati al Nobel, contano uno esattamente come l'unico professore dell'Università di Valtellapesca, magari diventato professore ordinario con un'idoneità 3, che come è noto sempre passato. Mi scusi, però forse in quel caso l'intento del ministro è quello di evitare che i 50 di quell'università possano essere condizionati da giudizi non proprio legati al merito, mentre invece un esterno, anche se uno solo, può dare un giudizio sul merito. Forse è questo l'intento, o no? Non lo anche so, quello di Benevento è interno, anche lui fa un professore, però se io in commissione ci mando i migliori è probabile che passino i migliori, se io in commissione ci mando anche i peggiori o perlomeno i meno validi ho molti dubbi che questi passino i migliori. Va bene, questo è importante, il discorso della misurabilità del merito, naturalmente, di come si che fa a misurare. Il vero problema dell'Italia, sì, il vero problema e qui ci saranno, questo, mi scusi, mi faccia parlare però anche a me, se no. Sì, e qui poi ci saranno i decreti attuativi, ci saranno i criteri, andremo a vedere da questo punto di vista. Però per quanto riguarda la questione, per esempio, dei mandati dei rettori che non sono più prorrogabili, su questo che insomma tutta la gente dice beh insomma è giusto, 2, 3, 4, 5 mandati diventano delle vere e proprie baronie, adesso questo finisce dati, cioè, vuol dire, mica, non c'è mica un problema Vabbè. Voglio dire, io credo che vada bene, però bisognerebbe anche questo questo principio estenderlo a tante cose. C'è vabbè, ma cominciamo da qua, cominciamo da un altro. Cominciamo però dall'università, l'abbiamo bene, applicato qua, è bene, una cosa positiva, e fermiamoci intanto su questo. Il discorso sì, parentopoli, non si può, forse questo è esagerato, non lo so, fino al quarto grado ma di parentela. Non lo so, però, non lo avessimo. Io dico soltanto che negli altri paesi nel mondo questo problema è affrontato in modo diverso e credo in modo migliore. quando per esempio in un però mi scusi rettore, forse perché negli altri paesi non ci sono casi in cui non è vero, le spiego, quando per esempio vince un concorso magari la moglie di uno che sta nel dipartimento di fisica o di biologia o di filosofia, quello che fanno una commissione esterna molto severa, la quale valuta se il marito, la moglie, il figlio, il nipote, lo zio, il cugino, l'amante, il convivente. Ma in Italia c'è una cosa del genere? No, non c'è mai stata, poteva fare quello che voleva. Sarebbe stato meglio mettere una norma che dice quando viene in un dipartimento, ne vince un concorso un parente, viene fatta una commissione esterna all'università, magari fatta dal CUN, la quale verifica se questo è bravo perché è bravo e bravo perché è stato aiutato dal parente. Così è fatto nel resto dei paesi dove appunto il merito lo si misura davvero. Questa è una norma, voglio dire, ripeto, alla quale uno naturalmente va benissimo, per carità, non ho nulla da dire, se non nel caso in questione di cui hanno citato me, un concorso partito 2 anni e mezzo fa, pigliano servizio solo adesso perché il finanziamento ministeriale 2010 ancora non è noto, quindi pieno servizio l'ultimo giorno dell'anno solo per il motivo banale che c'è questa inadempienza, diciamo, generale del ministero. Ecco, allora spieghiamo bene il suo caso, perché lei era stato tirato in ballo da numerosi articoli. Il fatto è questo, che suo figlio è diventato ordinario. Ha vinto un concorso partito 2 anni e mezzo fa. Però quando entra in ruolo? Quando entra? Perché questo è quello che ha sollevato la questione. Si è detto, entra in ruolo quando il concorso è stato bandito 2 anni e mezzo fa. Allora, una delle vergogne è che ci voglia 2 anni e mezzo per fare un concorso, altrimenti il problema non si sarebbe posto. E naturalmente la presa di servizio è rinviata non per via della legge, ma perché il finanziamento ministeriale ancora dell'università, non di questo posto, non è ancora arrivato. Ma scusi, ma quindi, da chi dipende il ritardo? Non è l'università? Dal ministero, non dall'università. Cioè il Ministero oggi nel 2010, il finanziamento 2010 sul quale un'università doveva fare il bilancio preventivo, oggi a fine anno non è ancora noto. Allora i rinvii delle prese di servizio sono dovute a questa inadempienza ministeriale, altrimenti il problema non si sarebbe posto rispetto alla legge. Senta Frati, ma non per essere polemici, però già che parliamo del suo caso, il caso di sua figlia che non è neanche laureata in medicina, che però lavora a dipartimento di medicina, è così? Scusi, è laureata in giurisprudenza, è professore di medicina legale, la trova tipico lei? È professore di medicina legale. Medicina legale, è la sua specializzazione. No, ma io le faccio la domanda. E poi lei il concorso l'ha fatta a Macerata, neanche a Roma, per capirsi. Però oggi lavora al dipartimento dove lei lavora è preside. Dove? Lavora su una facoltà che l'ha chiamata quando io non ero in quella facoltà. Voglio dire, il problema sempre si pone nella stessa maniera, o parliamo di merito o parliamo di parenti. Lei, la domanda che io mi faccio... Parliamo di tutte e due. Se mandano in carcere un ignorante è una vergogna, se mandano in carcere un ignorante parente è una vergogna doppia, se mandano in carcere uno bravo va bene, se mandano in cattedra un bravo che è anche parente va bene lo stesso. Il problema è quando c'è uno bravo non parente che rimane fuori e quello si fa qualche domanda. Se rimane fuori, nel mio caso non è mai successo. Cioè? Ogni volta che c'è stato uno bravo sono stato in commissione, anche a dispetto dei miei allievi io ho fatto vincere quello bravo. Degli allievi, ma dei parenti? Ma che vuol dire parenti? Le sto dicendo, se in un concorso nel quale io ero coinvolto e c'era uno bravo che non era mio allievo, non era parente, roba, ha vinto quello bravo. Quindi a me non si può fare l'appunto di non aver fatto vincere i bravi, notoriamente in tutta Italia, in tutti i concorsi. Dopodiché il problema, io credo, dei parenti è un fuorviare rispetto a un paese che non riesce a misurare cosa vuol dire bravura, cosa vuol dire merito. Usciamo da questa situazione, altrimenti... Lei l'ha visto il film The Social Network sul fondatore di Facebook? Sì, come no. Secondo lei, insomma, un ragazzo che fa nascere l'impresa più innovativa del decennio in un'università così da zero, secondo lei in Italia con la legge Gelmini si va in questa direzione? Potrà succedere? Voglio dire, attenzione, far nascere un'impresa non vuol dire poi essere un produttore scientifico, perché voglio dire, nell'università italiana, americana, europea si valuta una persona per l'innovazione. Cioè voglio dire, uno può essere un genio nel fare un'impresa commerciale, non necessariamente essere poter diventare professore. Grazie, Luigi Frati, buonasera, 19:58, GR, titoli, torniamo tra poco. Alle 20 in punto, rientriamo, titoli del TG1. Vi preghiamo, ridateci nostra figlia, siamo convinti che sia viva. Un mese dopo la scomparsa di Yara, straziante appello dei genitori. Confessa uno dei 4 fermati per la strage di Vibo Valentia, troppi soprusi, la faida covata per anni per liti di confini agricoli. Allarme ghiaccio, valanga sulle piste da sci in Val d'Aosta, torna a nomi della donna. Napoli milionaria con il Super Enalotto, per la Sisal sono valide le due vincite fotocopie nella stessa ricevitoria. La Francia cerca 500 agenti segreti, su internet il bando, preferiti matematici, analisti finanziari ed esperti informatici. Ultimi preparativi per il cenone, 10 milioni gli italiani al ristorante durante queste feste, al TG1 i consigli del campione mondiale dei sommelier per il brindisi di Capodanno, niente coppe o flutte per chi ama le bollicine. C'è una notizia che io non so se la possiamo dare, perché rovina un po' la poesia degli ultimi giorni dell'anno, quando poi partono gli oroscopi, le previsioni e tutti sognano sperando in cose positive per l'anno prossimo, perché come ogni anno il CICAP, che sono questi crudeli del Comitato per il Controllo, pensate, delle affermazioni sul paranormale, hanno smentito e pubblicato oggi su Repubblica, hanno ricordato tutte le previsioni che erano state fatte, gli oroscopi importanti, e sono andati a vedere tutte le smentite che ci sono, e sono numerosissime. Pensate che si va dal mago Telma, che aveva detto che l'Inghilterra avrebbe vinto i mondiali, che non ha vinto, al fatto che qualche altro mago aveva previsto che il premier Berlusconi sarebbe stato sfiduciato in caso di voto, ma non è stato sfiduciato. E notizie anche che riguardano Obama, la fine improvvisa e tragica per il presidente degli Stati Uniti, ma naturalmente non è avvenuto. Oh, l'anno non è ancora finito, però no, ma non è che vogliamo augurare qualcosa di male a Obama. E sono, è lungo l'elenco, perché vediamo ancora cosa c'è. Osama Bin Laden uscirà di scena, un altro mago, credo straniero. Blackout tecnologico attorno al 7 agosto in Giappone, Svezia e Canada. Non è successo nulla di tutto questo, però insomma, questo ciò non toglie che tra qualche giorno ci divertiremo tutti a sentire le previsioni e gli oroscopi, come sempre a ogni fine anno. Ascoltatori all'800 24 0024, anzi andiamo avanti coi titoli del TG della 7. Un appello forte quanto dignitoso. Yara è viva, ridateci nostra figlia. Dopo 32 giorni di silenzio, i genitori della ragazza Gambirasio si presentano alle telecamere e dicono: chiunque voi siate, restituiteci. Qualcuno ha parlato di fango nel ventilatore per la brutta storia dell'attentato presunto, finto, a Gianfranco Fini. Il presidente della Camera ha querelato Libero e anche il giornale, mentre un altro esponente di Future Libertà, Granata, senza mezzi termini, ha detto: il mandante è Berlusconi. Molte ombre anche attorno a un altro attentato, quello dell'ottobre scorso, proprio contro Belpietro. Per i magistrati la vicenda è nata dal capo scorta dello stesso Belpietro, che si sarebbe inventato l'intera macchinazione. Quello in arrivo è già stato battezzato come un anno infelice, perché costerà a ogni contribuente almeno 1000 euro in più. Il dato è fornito dall'organizzazione dei consumatori, che oggi parlano apertamente di una stangata in arrivo. Lo scandalo della spazzatura a Napoli, la monnezza adesso diventa lo scontro istituzionale, una vera e propria battaglia tra il governatore Caldoro e il sindaco Rosa Russo Iervolino. Era stato assunto all'azienda romana dei trasporti, adesso Francesco Bianco è stato sospeso, non in quanto ex terrorista di destra o perché assunto in omaggio a quella che viene chiamata Parentopoli, ma per presunti insulti su Facebook indirizzati agli studenti e agli ebrei, che non ha mai in realtà attaccato. Il massacro di Vibo Valentia, 5 persone di una stessa famiglia uccise da 4 di un'altra famiglia. Una terribile faida col reo che dice: eravamo stanchi dei loro soprusi. 24 minuti, riprendiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Alice che ci chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire sul caso Belpietro e dire la mia opinione. Secondo me si tratta proprio di una strategia di comunicazione fatta apposta per dare rilevanza a questa voce della destra, che in realtà è poco popolare e minoritaria. Io sono andata a vedere su internet le cifre della tiratura, non so, il Corriere della Sera, 450.000 copie, posso sbagliare, però questi dati che ho trovato. Sono un po' di più, sì. Repubblica, 250.000 a giorno. Sono dati vecchi. Mi sembrano dati un po' vecchi, ma insomma sì. Quelli più recenti non si trovano e non li ho trovati. Ma per esempio il Foglio, 100.000 copie, e Libero e Giornale molto molto meno. Ma il Foglio 100.000 mi sembrano tante, sì, comunque sono giornali naturalmente tendenzialmente d'opinione, certo non fanno le copie che può fare il Corriere o anche solo Repubblica, almeno non il Foglio. E questi personaggi, per esempio, a detta di Santoro, sono tipo Belpietro, sono imposti nei dibattiti di Anno Zero regolarmente, perché non possono andare in onda se non hanno un contrattare di destra, che però in realtà, lei non vorrebbe vedere Belpietro, non è radicale. No, io no, a me fanno venire il cimurro tutte le volte, però sembra come un modo per pompare, per far credere che esista una parte culturale del paese che dà credito a questa gente. Beh, però lei ha citato, mi scusi, poi la faccio proseguire, lei ha citato le tirature dei giornali, però non è che sia questo l'indice della popolarità o meno, perché si sa che, io dico, purtroppo l'Italia e gli italiani non sono un popolo di lettori e quindi le tirature sono limitate, sicuramente i giornali che ha citato lei, però messi insieme il Giornale e il Libero, lasciamo perdere il Foglio che fa poche migliaia forse di copie, beh insomma fanno sicuramente fanno più di quello che fa l'Unità, il Manifesto, Liberazione e tutti i giornali della sinistra messi insieme. Non direi che non hanno un seguito i giornali, Feltri in particolare è uno che vende sempre molte copie, detto però poi appunto che non è questa la misura della popolarità. Con questi, però della credibilità, diciamo, vogliono rendere credibile dei modi di fare cultura, di fare giornalismo che secondo me ai più, alla gente veramente acculturata, ripugnano. Non a caso poi vanno, usano questi canali comunicativi, la rivista di Pettegolezzo e queste cose qui. Per dare credito a delle opinioni che secondo me sono pensate e strutturate in maniera un po' disonesta, ecco. Ho capito, grazie. Sentiamo se gli ascoltatori la pensano allo stesso modo, cioè Belpietro imposta il giornale in modo disonesto e quindi non è credibile e non ha neanche molto seguito. Questa è l'opinione della signora che ci chiamava Alice. Franco da Ascoli Piceno, buonasera. Buonasera a lei, dottor Maurizio. Anzitutto le volevo due parole riguardo al suo predecessore. Cos'è, è andato in vacanza? Cruciani? Sì, vabbè, ma che c'entra questo? Sì. No, lo volevo dire perché ovviamente Cruciani è un professionista, come hanno detto altri, però ovviamente tante volte va fuori dalle righe. Vabbè. Cioè un provocatore, è un conflittuale, leva le parole tante volte all'ascoltatore, forse è una sua tecnica di conduzione, però vabbè, io comunque le faccio i miei complimenti perché in lei vedo almeno una persona molto più tranquilla e anche pone l'argomento. E io la ringrazio, però comunque veniamo a quello che volevo dire. Benissimo. Allora, vabbè, ovviamente sono già stato bruciato per tante cose. Io volevo parlare per il discorso di Belpietro, no? Sì. Il falso attentato, Sallustri, Belpietro, Feltri, più o meno è un po' come un triangolo della morte, nel senso che dopo tutto è inutile adesso che ci nascondiamo, per molti italiani, cioè quegli italiani diciamo un 40-60%, sono tutti ubriacati da Berlusconi, nel senso di quello che Berlusconi propone, no? Perciò di conseguenza tutte queste cose che escono di tanto in tanto è tutta una programmazione organizzativa, cioè nel momento che ci sono una programmazione organizzativa, cioè lei vede un disegno, ma di che tipo? Sì, ma guardi che io non sono un paranoico, oddio. Se facciamo due conti vediamo che da 18 anni o 16 anni da quando c'è Berlusconi che ha portato queste novità, innovazioni, diciamo così, aziendali, no? Nell'Italia non siamo più usciti, poi ovviamente la sinistra ha la sua colpa perché gli ha aperto non solo le porte ma le ha spalancate, quello che vuol dire. A questo punto il discorso è mio, è questo. I Sallustri, Belpietro, già a vederli, no, quando si presentano, adesso non è per fare una fisionomica, si capisce solo dal viso che essere sono e cosa possono scrivere. No, ma in che senso? Mi scusi, cioè, Belpietro è uno che ha una carica, sicuramente quando va in trasmissione, in televisione, è uno che, insomma, sì, che si fa sempre sentire. Sì. Poi le cose cose che lui dice, ovviamente, tipo il suo attentato, è tutta una balla colossale. E purtroppo gli italiani ci credono, perché poi diciamo la loro farina giusta da mettere nel pane, cioè il lievito da mettere nel pane e farlo lievitare, è questa strategia, no? Fare sempre delle cose che poi alla fine l'opinione pubblica, dato che è poco informata, perché poi se ci guardiamo in giro tra i Minzolini, tra i Vespa, tra di qui, tra di là, per non parlare del Vaticano. Adesso ha fatto un bel quadro, basta, fermiamoci qua perché è arrivato anche al Vaticano. Comunque, volendo fare una sintesi di quello che lei diceva, ma anche qualche altro ascoltatore, si verificherà nel tempo se gli scoop, le notizie, come è anche stato per la casa di Monte Carlo o questa volta per il presunto attentato, anche se in questo caso io lo sottolineo, è davvero strano da maneggiare questa notizia, perché come si fa a verificarla? L'unico modo sarebbe che ci fosse l'attentato, ma insomma, a parte che questo non se lo augura nessuno, poi Fini non ci va nemmeno ad Andria, quindi di che stiamo parlando? Comunque, pausa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24, e riprendiamo con i vostri interventi. Da dove riprendiamo? Dalla 4. Domenico chiama dalla provincia di Barletta, Andria, tra l'altro il luogo incriminato. Barletta, Andria Trani. Sì. Sì, dico, volevo intervenire sempre sulla questione di Del Pietro, del falso attentato, nonché della notizia riguardante questa la prostituta. Secondo me il problema va esaminato sia da un punto di vista politico, vabbè, ma questo per il momento non ci interessa, sia da un punto di vista giuridico legale. Del Pietro, nel pubblicare quella notizia, si assume la responsabilità di quello che scrive e quindi risponde del reato di diffamazione, secondo me. Soprattutto sul discorso del Fini che si è recato dalla prostituta, questo sì. Sull'altro è più difficile da verificare. Sì, prego. Sì, perché? Perché nel momento in cui mettiamo per ipotesi che la notizia è falsa, vabbè, allora non ci sono problemi, Del Pietro è responsabile. Nel caso in cui anche la notizia sia vera, nel senso che c'è una persona che veramente è andata da lui e è andata a riferire questo, lui nello scrivere quell'articolo e non evidenziando la fonte e non verificando la veridicità della notizia, nel senso che poteva pure informarsi se veramente Fini doveva andare ad Andria, se veramente era previsto un incontro, cioè, lui risponde lo stesso per reato di diffamazione perché non rivela la fonte e quindi fa sua quello che scrive, il contenuto di quello che l'informatore gli ha detto. In quel caso però, mi scusi, ma non credo che ci sia diffamazione, perché lui riferisce che qualcuno gli ha riferito che ci sarebbe un attentato, ma non c'è diffamazione lì, la diffamazione c'è sull'altro aspetto. Sì, c'è una diffamazione perché uno dice fatemi un attentato perché io devo fare la vittima. Questo è un caso di offendere l'onore e la reputazione di Fini, perché Fini è visto come una sorta di organizzazione, o chi sta vicino a lui, di organizzatore di un falso attentato, il suo danno, per fare la vittima. Dicendo questo, tu diffami la persona che indichi come, diciamo, come quello che dovrebbe farsi l'attentato falso. In questo senso, quindi, Del Pietro è responsabile di quello che scrive, cioè del reato di diffamazione. Va bene, grazie. Grazie, 20:15, abbiamo il traffico, poi rientriamo di nuovo con gli ascoltatori, 800 24 00 24. E ora andiamo a sentire chi ci chiama. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, da Milano per modo di dire, perché in realtà sto rientrando in Italia da Parigi, dove vivo da 15 anni, insegno all'università. Sono fuggito dall'Italia molti anni fa. Un cervello in fuga, sì. Adesso dirigo un centro di studi in Francia. Ah, allora sì, è proprio il caso di dirlo. E in ogni caso, guardi, due cose semplicemente. Non conosco queste situazioni italiane dell'ultimo minuto, per quanto seguo molto la situazione italiana su internet, sui giornali italiani di tutti i campi. Voglio dire, quello che mi spaventa è, vedendo dal di fuori, se vuole, come l'Italia sia degradata, è diventata, mi scusi, un escortaio, mi scusi la parola, una volta si diceva diversamente, ma da quando un puttanaio si diceva una volta. Si diceva puttanaio, ma adesso però rendeva pare meglio che l'idea, mi scusi, gli uomini politici sì. frequentano le escort, non sì. più le puttane. Dunque un escortaio in cui tutto si mescola, ma voglio dire, intanto esiste una vita privata, in Francia non si permetterebbe mai di giudicare un uomo politico sulla base di delle persone con cui passa la notte. Ma lei questo si riferisce a cosa? A Berlusconi, a Fini? A tutto l'insieme di quello che sento adesso dalla sua trasmissione, sì. perché riprendo queste notizie. E la seconda cosa che volevo dire è che questo marciume, mi scusi, volevo dirlo anche al collega Frati, che è rettore dell'Università di Roma, questo marciume è completo nell'università. Io me ne sono andato proprio perché non lo sopportavo più. Perché guardi che i concorsi, tutte queste cose qui, io vedo in varie discipline che non è vero che sono i migliori che vanno avanti. E guardi che in Francia abbiamo adesso un numero incredibile di italiani che vengono a domandare il posto. Lei non può immaginare quanti giovani, voglio dire tra i 30 e i 40 anni, di buona formazione, che vuol dire che l'Italia forma ancora bene, quanti vengono in Francia e chiedono un posto e lo ottengono perché hanno una buona formazione di base. Ah certo, su questo non c'è dubbio, se no non saremmo così gettonati all'estero se non esatto, ci avessimo una buona formazione. Però se ne vanno. Sì, e quelli che restano, io vedo molto spesso dei colleghi, certo non posso dire che siano i migliori. I migliori li trovo in Francia, li trovo negli Stati Uniti, li trovo in Inghilterra, dove vado. E qual è la differenza? Perché da noi lei dice tutto marcio, invece forse... Perché il sarà sistema un po' eccessivo, ma insomma. Ma guardi, quello che io ho visto, ma può darsi che mi sbagli, è un'opinione mia personale e mi permetta di esprimerla, che nei concorsi il nome del vincitore è quasi conosciuto a priori. Una persona che chiede un trasferimento da un'università all'altra, se non è super pistonata, non ci va. E deve avere veramente qualcuno che l'appoggia molto forte, specialmente per andare in università centrali. Per quanto bravo uno possa essere, questo è il sentimento che ho riguardo a me, un sentimento, un'impressione mia, per l'amor del cielo. Ha seguito il dibattito sulla riforma Gelmini e che cambia le regole per le assunzioni, è qualcosa che ci avvicina al caso che lei conosce, per esempio della Francia? No, non credo, io credo che sia non un crede altro... o non la conosce? Conosco molto poco, l'ho seguito abbastanza, ho seguito varie volte qua da allora facciamo così, se lei ci promette che sta tornando in Italia, ho capito male? No, sono in Italia, sono arrivato da poco. Ecco, e se lei dà un'occhiata su Radio 24. Se lei dà un'occhiata ai giornali, domani sì. Il presidente Napolitano firma la riforma sì. Gelmini, quindi magari ne possiamo parlare. Ci richiama, se dà un'occhiata ai contenuti, qualche giornale li riporterà. E magari facciamo un confronto con la Francia, che a questo punto diventa interessante, però avendo in mano gli elementi. Facciamo mi permette così. Di chiamarla dopodomani. Dopodomani, noi siamo qua. Tutte le sere. Perfetto, dopo domani la chiamerò con grande piacere, la ringrazio e mi scusi di questo intervento un po' triste, ma da italiano dell'estero ne sono molto addolorato. Di noi abbiamo anche un programma che si chiama, non mi ricordo come si chiama, Giovani Talenti, che si occupa proprio dei talenti italiani che vanno all'estero, non solo quelli che vanno all'estero, sì. Ma insomma quelli che ci vanno, perché in Italia non si riesce a fare, insomma, per cui si figuri, noi siamo qua apposta. Grazie, 20:21, ancora andiamo con Luciana che ci chiama da Padova, buonasera. Eccola qua. Eccola. Sono qui. Prego. Sono pronta. Anche noi a sentirla. Sì. Allora sì, a parte che io ho chiamato ancora più di mezz'ora fa, ma il signore che mi ha preceduto, che dice generalizzare, io sono sempre contraria a generalizzare, perché ci sono ancora delle brave persone fortunatamente in maggioranza, anche tra i ministri, eccetera. Io però mi volevo soffermare sulla faccenda, sulla questione Presti Giacomo e la questione anche Carfagna che l'ha preceduta. Allora, queste due ministre che insomma sappiamo bene la loro storia, inutile che stiamo qui a soffermarsi una per un verso, una per l'altra, per me, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Per me il Presidente del Consiglio Berlusconi è stato anche fin troppo tollerante, nel senso che sono un po' viziate, cioè non sanno gestire minimamente il potere. Allora Carfagna è ritornata sui suoi passi quando ha intravisato l'impossibilità probabilmente di candidarsi a sindaco di Napoli, quindi è tornato indietro. La Prestigiacomo, anche lei forse chissà che cosa, cioè queste ministre devono smetterla di chiudere, di fare i capricci. Non sono una rappresentanza però, genere femminile. Mi spieghi però il capriccio, se sta prima o se sta dopo, cioè il capriccio è quello di minacciare le dimissioni o quello di rientrare? Sia prima che dopo, cioè intanto non si fanno queste dichiarazioni a un giornale che, con tutto il rispetto che posso avere per Signorini o chi per esso, non si fanno queste dichiarazioni in un giornale che generalmente tratta di gossip o di cose. Sì, queste dichiarazioni si fanno, cioè non c'è serietà, capisce? Non c'è la serietà del ruolo. Cioè lei da donna critica aspramente... E le dirò di più che io sono presidente e anche consigliera nazionale di un'associazione che riguarda le donne che hanno ottenuto nel 46 diritto al voto. Italia è un paese di presidenti. E quindi le dirò di più che io sono indignata proprio per questi comportamenti. Non sono indignata per i gossip, donne, amanti, cose, perché quelli sono sempre esistiti. Non mi sento assolutamente lesa nella mia... femminile, né di donna, né di madre, né di moglie, né di compagna, né di... sono indignata perché queste donne che fanno le ministre e qualcuno le ha messe lì, non so per quali privilegi poi o di bravura, non sanno tenere il passo, non hanno la forza di gestire. Ma scusi, potere. Ma perché dice questo, per esempio, della Prestigiacomo? Lei si ricorderà altre crisi precedenti che ci sono state in Italia ogni anno quando campagna. C'è... No, ma parlo di altro. Mi ascolti e vedrai che glielo spiego. Tutti gli anni quando c'è la finanziaria, i ministri dell'economia tagliano, ci sono i ministri che puntano i piedi perché vorrebbero che la scuola, i beni culturali, l'ambiente, in questo caso la Prestigiacomo, a parte la questione dei rifiuti, ha puntato i piedi per le risorse, ha anche ottenuto qualcosa per il suo ministero. Sì, ma però guardi, non piangono. E questo, le lacrime femminili non mi questo sono non è piaciute. Questo non è condurre con forza il ruolo di ministro? Secondo me sì. Ma per me condurre con forza a fare il ruolo di ministro non è né puntare i piedi, perché io nella mia vita ho ottenuto tutto senza dover puntare i piedi. È stata fortunata, perché guardi quando c'è di mezzo Tremonti che taglia tutto se non si puntano i piedi, ha visto? Però guardi, la Prestigiacomo e la Carfagna mi hanno fatto proprio andare, scusi il termine, latte le ginocchia, perché effettivamente non mi aspettavo, perché per esempio la Gelmini io trovo che sia una donna che sa fare ministro. Gelmini sì, Carfagna no. Sì. Da nulla, spiega perfino, lo rispiega fino a che lo capiscono anche i sassi. La Gelmini, un'altra che non mi dispiace, anche se ha un modo così, che sa dare le risposte, è la Santanchè, un'altra che sa dare delle risposte, che è informata, e se non è informata si fa informare addirittura in trasmissione. Santanchè, le facciamo sentire Sgarbi, le facciamo sentire Sgarbi sulla Santanchè, le facciamo sentire Sgarbi sulla Santanchè. Così vediamo, eccola. Ecco, con lei è un piacere parlare. Come ha fatto con la Santanchè, dobbiamo fare. Tutti i giorni chiede un ministero, le diamo il ministero più utile, quello di Rotondi. Sottosegretario all'attuazione del programma. Il programma non c'è, l'attuazione la fa ognuno per i cazzi suoi. Cioè, è divertente avere un sottosegretario all'attuazione del programma. Cioè, solo per questo va ammirato Berlusconi. Mi scusi, non mi dica che non ha riso un po', eh? No, ma io rido quando mi diverte molto Sgarbi, perché è molto pittoresco, oltre che essere così colorato nelle sue espressioni. E comunque io, magari domani dice un'altra cosa, dice il contrario di quello che ha detto oggi, però non mi diverto molto quando sento Sgarbi, anzi dirò di più che mi piace molto in televisione, perché crea la rissa, a me piace molto vedere... No, ma come ministro, mi scusi, anzi no, come esponente del governo, la Santanchè, sottosegretario all'attuazione del programma, il ministero di Rotondi, che già non si sentiva il bisogno di quel ministero, tantomeno di Rotondi. Ma non come persona, ma proprio come figura. Sottosegretario, però lei la difende, è meglio lei della Prestigiacomo. Perché? Ma io la difendo, sa perché? Non la difendo come ministro, come sottosegretario. Perché tanto a lei mica gli come donna politica, come idee. No, come persona. Come persona. Sì, come persona, perché comunque si muove come il cavolo. Avevo capito che, stiamo parlando della donna di governo, non della persona. La donna di governo, infatti, la donna di governo deve fare i capricci. La donna di governo deve governare. E non mi sembra chiaro il concetto, l'ha espresso. Adesso sentiamo anche le altre donne, magari, che sono all'ascolto. Chissà se la signora Yolanda, che invece ieri aveva avuto parole elogiative nei confronti della Presti Giacomo, chissà se oggi vuole intervenire. 800 24 00 24. Chi abbiamo? Vogliamo sentire Stanislao, che chiama da Salerno. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì. Salve. Da un po' che aspetto, ho ascoltato questa. Si era addormentato, dica la verità. Sì, ho l'orecchio narcotizzato dal telefonino. Senti, è il suo momento, prego. Allora, un primo passaggio in linea. Io sono un ricercatore universitario e ho sentito l'intervento del rettore e del collega più fortunato che sta in Francia. Onestamente, la riforma, io prima la collega mi chiedeva quale doveva essere, qual era la natura del mio intervento. Beh, io da ricercatore, quello che sto vivendo è semplicemente un'ulteriore conferma di precariato, perché questa riforma si adegua a quelli che sono dei parametri europei, e quindi, diciamo, un passo in avanti è stato fatto, ma sono riusciti a fare 3 indietro, perché hanno reso ancora più precaria tutta la situazione. Cioè non hanno risolto i problemi dell'università sbandierando il nepotismo. Ma lei cosa dice? Cioè, a cosa si riferisce per non aver risolto i problemi che l'università? Quali sono i problemi che andavano risolti? Ma sicuramente abbiamo una riforma degli atenei, sugli statuti degli vari atenei, che è molto ad personam al momento. Che vuol dire ad personam la riforma degli atenei? Nel senso che ogni ateneo si regola in base alla lobby attuale, sui regolamenti, sui concorsi, su come gestirsi. E quindi i propri statuti, abbiamo rettori che stanno in carica da periodi lunghissimi, perché ogni volta trovano un modo per riformare lo statuto e confermarsi un altro triennio di rettorato. E resti in linea, facciamo la borsa, torniamo e continua a farci la sua analisi in chiaro scuro della riforma Gelmini, che verrà firmata domani da Napolitano. 800 24 00 24. 20 e 32 minuti, c'è ancora Stanislao da Salerno? Eccolo, ed è rarissimo trovare una persona che ha un'opinione sulla riforma Gelmini che non sia né tutta negativa né tutta positiva. Finalmente ce l'abbiamo. Allora, lei fra l'altro è un ricercatore, ci dica una cosa buona e una cosa negativa della riforma Gelmini. Sicuramente un aspetto positivo è il fatto che si è introdotto un parametro di valutazione delle carriere che sia basato su delle referenze di pubblicazioni che non sono più quelle del passato. Cioè, mi spiego, in precedenza cosa avveniva? Ogni dipartimento, ogni professore più, diciamo, titolato in ambito accademico metteva su una rivista, una pubblicazione ad uso e consumo del corso che faceva, e quella valeva come pubblicazione scientifica. E su questo purtroppo molti colleghi hanno speso anni di vita senza trovarsi oggi praticamente niente. Con i nuovi parametri, chiaramente quando c'è un livello europeo dove la certificazione delle pubblicazioni avviene attraverso un sistema dove non c'è possibilità di conoscere chi valuta l'articolo, dove le referenziazioni sono internazionali, chiaramente questo dà un valore oggettivo, o quantomeno si spera sia oggettivo, del lavoro che uno svolge. E la cosa negativa? Una cosa negativa riguarda la stroncatura sulle prospettive di carriera nell'ambito universitario, perché di fatto c'è l'abolizione del contratto per i precari, praticamente, per i ricercatori, perché, insomma. Perché che cosa succede? Tutti quelli che fino ad oggi sono stati vittime, diciamo, di un precedente sistema, sì, e hanno per anni atteso, sì, che il bacucco di turno venisse meno e si aprisse un po' di spiraglio, si trovano praticamente a non aver fatto niente. Su questo sono d'accordo con lei. Ogni volta che si fa una riforma in Italia, era successo anche per esempio con alcune liberalizzazioni all'epoca di Bersani, si finisce poi per farle sulle spalle di chi transita da un vecchio sistema a un nuovo sistema. Accade con le pensioni, è accaduto con i taxi. Adesso forse la stessa cosa accade con i ricercatori, ed è il motivo per cui molti si accaniscono in questa protesta che va avanti, perché insomma, dopo aver percorso una strada che poi si chiude all'improvviso, naturalmente prima non lo sapevano, questo difficile da buttare giù. Grazie comunque a questo nostro commentatore equilibrato sul DDL Gelmini, riforma Gelmini, domani Napolitano firma. Titoli del TG2. Davanti alle telecamere l'appello dei genitori di Yara è viva, abbiate pietà, ridateci nostra figlia, nuovi rinforzi per le ricerche anche oggi senza esito. Il caso del presunto attentato contro Gianfranco Fini, il presidente della Camera querela Libero e Il Giornale, la procura apre un'inchiesta, Futuro e Libertà vogliono distruggerci. Secondo le associazioni dei consumatori in arrivo un 2011 di aumenti che costerà oltre 1000 euro a famiglia, rincari soprattutto per prodotti alimentari e trasporti. Drammatico esodo dalla Costa d'Avorio sull'orlo della guerra civile, in 20.000 fuggono in Liberia, in maggioranza sono donne e bambini, attaccato un convoglio dell'ONU. La macchina della ricevitoria stampa due schedine uguali, così a Napoli due combinazioni vincenti da 36 milioni l'una. La vincita è regolare anche se è frutto di un errore. Se inventavo io Facebook, una regola avrei messa: niente foto sul profilo se sei cessa. Guarda tu, più sono racchie e più fanno le baldracchie. Checco Zalone nella musica che anticipa il film che uscirà ai primi di gennaio, uno dei comici più in voga. Questo è l'anno di Facebook, se l'avessi inventato io, dice. Potrei attaccarti ogni mio bene, ma se rifiuterai potrei attaccarmi anche le vene. Credimi, non sei tra quelle solite amicizie, quelle che ti fai per farci solo le sporcizie. E che Cosalone l'abbiamo messo perché naturalmente lui col suo fiuto non poteva non parlare di Facebook, perché questo è l'anno di Facebook. Il suo fondatore è stato nominato da Time l'uomo dell'anno, non si parla d'altro. Anche prima vi ho dato una notizia che riguardava Facebook. E noi abbiamo convocato una che lavora su Facebook, adesso spieghiamo anche come, Raffaella De Marte, che è una funzionaria del Parlamento Europeo. Buonasera, benvenuta. Buonasera, eccoci. Eccoci, coordinatrice della pagina Facebook del Parlamento Europeo, prima di tutto, ma non solo, cioè lei non è che cura solo la pagina Facebook del Parlamento Europeo, ma è un po' dietro a quelle che sono anche le pagine Facebook dei parlamentari europei che sono stati istruiti appositamente su questo da un corso che è stato fatto in questi giorni, è così? Sì, diciamo che non curiamo la pagina degli europarlamentari. No, quello lo faranno loro. Io sento un rimbombo. Lei ci sta ascoltando al telefono o tramite la radio? Al telefono. E sarà la linea. Lei so che è a Parigi in questo momento. Sono a Parigi, sì. Fra l'altro malatissima, per cui mi scuso per la voce. Basta. No, noi la sentiamo bene. La invidiamo anche un po' a Parigi. Lei vive a Bruxelles, sì. A Parigi, gira l'Europa, insomma. Fortunata. Va bene. No, sì. Le dicevo, noi siamo appunto come presenza su Facebook quella del Parlamento Europeo, sì, in quanto istituzione. È chiaro che cerchiamo di creare dei legami anche con gli europarlamentari, per cui li invitiamo regolarmente sulla nostra pagina, che sì, è una pagina abbastanza grande, potrei dire, senza modestia, nel senso che abbiamo oltre 100.000 fan. Ah, però. Da tutta Europa e oltre. E li facciamo partecipare, soprattutto lo strumento privilegiato sono le chat, sì, con cui cerchiamo di mettere in comunicazione i cittadini con gli europarlamentari. Senta, ma è vero che è nato tutto da l'invidia per Obama? Cioè, durante la sua campagna elettorale Obama ha fatto uso di tutti gli strumenti di internet, anche di Facebook, credo, e allora qualcuno a Bruxelles ha detto: beh, dobbiamo farlo anche noi. Sì. Non so se chiamarla invidia, diciamo che era un po'. C'è un'emulazione, insomma, ecco il vento. Sì, perché. che si è capito che era uno strumento straordinario per mettersi in comunicazione con persone lontane, sia dal punto di vista fisico, perché Bruxelles è lontana, e anche dal punto di vista della comprensione delle istituzioni europee. Per cui durante la campagna delle elezioni del 2009, sì, c'era un po' il panico di dire ma cosa facciamo, perché come sapete bene il tasso di partecipazione alle elezioni è stato un po' bassino nelle ultime tornate, per cui diciamo le alte cariche del Parlamento ci hanno dato mandato, sì, di usare tutti gli strumenti possibili, fra cui anche che il social network. Lei crede che questa sia una strada che porta dei profitti? Cioè, secondo lei gli eurodeputati che sfruttano la loro pagina di Facebook e che hanno molti contatti, tra l'altro se c'è anche qualche aneddoto, qualche indiscrezione, ce la racconti? Io vedo che tra i più contattati ci sono De Magistris, Deborah Serracchiani, Sonia Alfano, Jean-Marie Le Pen. Questo credo che sia proprio una classifica a livello europeo. Quindi gli italiani vanno forte. Gli italiani hanno un primato anche sulla nostra pagina, che è comunque solo in inglese, perché quella del Parlamento purtroppo è solo in inglese. I fan più numerosi sono proprio gli italiani, per cui c'è una specie di love story tra gli italiani e Facebook. E in effetti i parlamentari, De Magistris da solo ha credo un ottavo di tutti i parlamentari europei in termini di fan, perché e come se lo spiegheranno gli altri europarlamentari, diranno questo De Magistris chissà cosa ha fatto per conquistarsi tutta questa fama. Sì, perché la politica italiana poi è diversa, nel senso che gli europarlamentari degli altri paesi non sono dei personaggi così delle prime donne, diciamolo. Delle prime donne? No, beh, no, prime donne, ma comunque dei personaggi così conosciuti a livello nazionale, no? Anche il sistema elettorale è diverso, però qui ci perderemo in un'altra discussione. Ma ce l'ha qualche aneddoto che riguarda, che ne so, alcuni di europarlamentari che sono stati, che sono passati, non dico tra le sue grinfie, ma insomma... Ma nelle chat si vede come sono veramente, nel senso che vedi quelli che hanno l'abitudine a utilizzare il mezzo come... davvero una cosa che gli appartiene, per cui sono lì che strappano la tastiera di mano all'assistente perché vogliono rispondere loro in tempo reale il più velocemente possibile, e altri che invece ce l'hanno giusto per... non voglio fare nomi, però l'ultima facciamoli qualche nome fatto... dai perché faccio il nome di uno straniero, sì, il capogruppo del Partito Popolare Europeo si è fatto fare la foto con la tastiera in mano giusto per la foto, in realtà non ha mai... Senta, ma sa che sta venendo fuori un'immagine veramente, non so come dire, di Bruxelles, cioè già questi eurodeputati che sono alle prese quasi come dei bambini con questo gioco di Facebook invece di lavorare. Poi io mi domandavo prima di fare il collegamento, non la prenda male, ma siete così tanti a Bruxelles che c'è una persona, come lei ha detta, solo alla pagina Facebook? No, cioè, No, non siamo così tanti, infatti è un mio secondo lavoro quasi, nel senso che io sono l'editrice del sito in italiano del Parlamento Europeo, per cui diciamo la mia missione principale è quella di scrivere articoli sull'attualità del Parlamento. Senta, ma Iva Zanicchi come se la cava con Facebook? Iva Zanicchi ha una pagina che parla di canzoni, delle sue... dei suoi tempi, della per dire, e compagnia, però non ha, credo sia una pagina aperta dai fan, perché non c'è alcun riferimento alla politica europea. E Borghezio? Borghezio non ce l'ha. La Lega, stranamente, tranne qualche pochi giovani europarlamentari, è abbastanza assente. Brunetta. Era europarlamentare, sì. Brunetta, però forse era europarlamentare. Brunetta era, non lo era più, non posso... E invece una che me la vedo lì a smanettare un sacco è la Serracchiani, secondo me... Sì, credo che la Serracchiani lo aggiorni lei. Ah, proprio lei in prima persona. Anche Fanny Alfano, perché l'abbiamo intervistata... Invece di lavorare, invece di lavorare... Ma no, no, sto scherzando. Questi europarlamentari giovani hanno un iPhone e, certo, e in due minuti aggiornano il profilo. Però credo che il successo delle pagine Facebook dipenda anche molto da questa essere veri, nel senso che se la gente vede che metti lì comunicati stampa e che cerchi di fare una vetrina delle tue attività, e non crei dialogo, non c'è tanta risposta. Invece De Magistris e la Serracchiani lanciano sempre dei temi di discussione, insomma. Mm. Per esempio? Vabbè, molto sulla politica italiana, inutile che sì. Infatti un po' l'anomalia è che questi 100.000 fan non è che parlino proprio di Europa, sì. Però appunto sono eccezioni italiche. Senta, ma Facebook è diventato anche un boomerang. Per esempio, noi abbiamo dato la notizia di questo Francesco Bianco, che è un dipendente dell'ATAC romana, è stato sospeso perché su Facebook aveva insultato gli studenti delle manifestazioni contro la Gelmini e tra l'altro anche parole di razzismo nei confronti della comunità ebraica romana. Può essere anche una cosa che si ritorce contro? Sì, può essere una cosa che si ritorce contro, per esempio... Uno si lascia andare, dice lì quello che magari cose di pancia e poi però tac! Ma i politici sono un po' più accorti, nel senso che di solito le cose che scrivono sono abbastanza ragionate e anche noi come istituzione chiaramente abbiamo dei limiti, dei controlli, però mi ricordo tipo appunto quando il governo Berlusconi è stato... confermato nella fiducia un paio di settimane fa, il leader del Partito Popolare Europeo ha messo i suoi complimenti al governo. Sì. E lì è stato un po' boomerang, no? Perché i toni di entusiasmo tenuti da uno straniero che non conosce la situazione politica non erano proprio adatti al momento. Vabbè, italiano. Faceva un po' il fan. Senta, adesso lei, fra l'altro, credo che sia anche giovane, nel senso lavora lì, ma non è che vogliamo usarla come megafono di Bruxelles. Però c'è una domanda che le devo assolutamente fare, che ce la fa un ascoltatore con l'SMS, che riguarda in generale l'Unione Europea. Se non se la senta, non risponda. Perché non ci sono le feste cristiane nelle agende? Sa che c'è stata questa polemica, no? Che è scappata questa cosa. Se ne è parlato lì a Bruxelles? Regolarmente credo che esca questa. Adesso io non voglio dire una posizione che è quella ufficiale, però so che diciamo il calendario delle istituzioni è neutro rispetto alle feste dei paesi, però se dovessimo fare festa. Sì, beh, questo sarebbe logico, però io sapevo che invece erano segnalate altre feste di altre religioni, era proprio scappata e qualcuno infatti aveva detto ma sì, c'è stata una svista, insomma, voi ne avete parlato lì a Bruxelles di questa cosa oppure è passata così? Che io sia al corrente no. Ho capito, grazie. Grazie mille a Raffaella De Marte, tra l'altro febbricitante da Parigi, funzionaria del Parlamento Europeo, curatrice della pagina Facebook del Parlamento Europeo. Buona serata. Grazie a voi, buon anno. E buon anno, sì, naturalmente. E allora riprendiamo per quest'ultimo scorcio di trasmissione, anzi no, traffico e poi telefonate. E allora riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 0024. Diego che chiama da Udine, buonasera. Salve, buonasera. Prego. Senta, una cosa, una chicca su Facebook, De Magistris è il più seguito di tutti perché arriva dal mondo di Beppe Grillo, che sono tutti internauti proprio sfegatati, sì, questo e è quindi, vero. E quindi si becca ovviamente il vantaggio. Quel traino lì. Sì, quel traino. E invece, tornando su Belpietro, io trovo che invece Belpietro abbia fatto perfettamente bene a scrivere quello che ha fatto, quello che ha detto. Tra l'altro mi sembra abbastanza anacronistico che Fini con così tanta sollecitudine, invece di preoccuparsi di aiutare a verificare che cosa è realmente successo, si sia dato la briga di querelare il giornale, dimostrando una debolezza e una, diciamo così, una fase di paura enorme. Beh, però mi scusi, se scrivessero che lei è andato con una prostituta su un giornale di tiratura nazionale e la cosa non è vero, credo che anche lei querelerebbe. No, guarda, io credo che chi fa vita politica e il presidente deve sapere incassare, ma insomma deve sapere incassare, deve sapere che soprattutto quando lui perde una battaglia che si è giocata con tutte le armi possibili, perché Fini ha detto delle cose irripetibili su Berlusconi in tutte queste ultime settimane, se si becca anche qualche articolo perché irripetibile perché quando ha dato dell'immorale di fatto a Berlusconi dicendo che il paese non poteva essere guidato da una persona di questo tipo e che quindi c'erano tutte le motivazioni per farlo fuori dalla presidenza del Consiglio e aprire una nuova stagione, lo ha detto apertis verbis, con chiarezza assoluta. Ma non è una battaglia. Cosa irripetibile, è una cosa che si può dire, no? È un'opinione. Sì, ma no, mica dico che, non ha, che poteva dirlo perfettamente. Sì. E si è beccato un articolo di una ipotetica, mi ricordo Nadia della Sicilia, che era un'altra delle escort di Berlusconi, che poi è sparita perché sì, Nadia Macri, poteva, sì. Ecco, che poteva essere una bufala. Insomma, che si becchi un, diciamo così, una, un po' uno sputtanamento, mi scusi il termine. Cioè lei dice, se le becca Berlusconi se le può beccare anche lui. Ma soprattutto perché lui ha inneggiato queste cose usandole come arma contro Berlusconi. Se si becca qualche piccolo dubbio, qualche, diciamo così, qualche cosa che possa incrinare la sua onorabilità e moralità di natura sessuale. Sì, ho capito, però c'è anche da dire, mi scusi, che la questione di Nadia Macri è tutta da dimostrare, però per esempio la vicenda Ruby, di cui si è parlato molto, quello era un fatto che era accaduto. È stato Berlusconi stesso che l'ha messo, esatto. Che ha telefonato, non che ci ha fatto del sesso, no, perché però, quello è dimostrato che non sì. Ce l'ha fatto del sesso, ma che abbia fatto un'idiozia a dire che la figlia di Mubarak, questo lo sa tutto il mondo, e Berlusconi è lì, ne pagherà le conseguenze, sì. Se ne pagherà le conseguenze quando si ripresenterà agli elettori. Però il fatto che uno, come Fini, si sente immune da tutto, io vorrei ricordare una cosa, la casa di Monte Carlo, per la quale lui è ancora sotto indagine per truffa, perché il PM ha chiesto l'archiviazione, ma il GIP non ha ancora archiviato, c'è la dimostrazione... Dovrebbe venire i primi di febbraio, sì. Sì, e quindi è ancora sotto inchiesta, questo per, come tutti gli italiani, che subiscono un procedimento, per cui è formalmente ancora indagato e non è stato prosciolto da niente, e in più c'è la dimostrazione in quel fascicolo, perché ho avuto modo di dargli un'occhiata, di leggere anche le recensioni stampa, quelle serie che sono state fatte, in cui si conferma che la doppia firma tra l'affittuario e il proprietario e l'affittuario, essendo la stessa, è la dimostrazione che il signor Tulliani era nel possesso di quella casa di che ha dato in affitto a se stesso. Il signor Tulliani chi? Fini? Tulliani ragazzo. Ah, ecco, sì, no, pensavo Tulliani ragazzo ha affittato la casa da se stesso, quindi ne aveva la disponibilità, quindi ne era il proprietario, ovvero ne aveva la disponibilità. Non c'è dubbio su questo. Invece, va bene, però riparliamone quando ci sarà, dire, come dice lei, il passaggio giudiziario e magari faremo il punto su questo. Io direi che può dire queste cose, Fini non sì. Si deve indignare o querelare, è un uomo pubblico. Beh, querelare può querelare, dopodiché poi uno giudica. Ma secondo me, mio parere personale, sì. Querelare del Pietro è un'idiozia. Va bene, abbiamo capito. Dire che grazie. Non va ad Andria. Va bene, abbiamo capito. Grazie. Non va ad Andria, questo è quanto risulta, però poi naturalmente qua è difficile smentire se aveva intenzione oppure no. Questo è quello che risulta attualmente agli atti, che poi contengono attualmente solo l'articolo di Belpietro, gli atti di questa inchiesta su questo presunto attentato. Germano da Pescara, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Salve, io volevo dire al rettore, volevo insomma commentare l'intervento del rettore. Sì. E secondo me, per come stanno le cose adesso in Italia, l'unico modo per evitare nepotismi vari e parentopoli è quello di avere il buon senso proprio di non candidare figli, di chiedere ai parenti di non aspirare a posti di quel tipo, perché se sono poi così bravi alla fine non penso che avranno problemi a trovare un altro lavoro. Questa è una bella obiezione, cioè se sono bravi perché devono andare a lavorare proprio nel dipartimento dove lui è preside? Ma guardi, non è solo il dipartimento. Mi dispiace non avergliela fatta questa domanda. Non è solo lui, non è solo il dipartimento dove lui è preside. Io conosco diversi esempi di situazioni nelle quali, cioè questi si conoscono tutti, più o meno si scambiano favori, persone che vengono prese da un dipartimento all'altro anche in diverse facoltà, cioè alla fine è la forma concorsuale che sta alla base che non regge qui da noi. Io spero che questa riforma veramente possa mettere in piedi qualcosa di serio, ma altrimenti diciamo che secondo me l'unica cosa che potrebbe funzionare sarebbe un po' un sistema all'americana, però purtroppo non è adatto all'Italia, all'università di massa. Cioè in America fondamentalmente chi aspira a un posto da ricercatore porta il suo lavoro, è valutato dalle persone con cui dovrà lavorare in futuro, quindi sì, tutte persone interne. Il problema però è a posteriori, è perché ci deve essere una verifica dopo sul lavoro. In America questo si concretizza nella ricerca di finanziamenti, perché il 50% del tempo di un ricercatore americano, questo lo so da informazioni di prima mano, è speso nella ricerca di finanziamenti. Se questi arrivano... Pronto? Sì, sì. Sì, se questi arrivano vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro. Insomma, qualcosa di questo tipo, legare effettivamente la produttività... Sì, va bene, abbiamo capito. Questo punto... Ma qualcosa di molto più concreto che non sia... la semplice pubblicazione, che poi magari, non lo so, io poi non essendo completamente dentro la... Ecco appunto, non andiamo oltre se non sappiamo. Grazie. 20:55, abbiamo ancora 3 minuti, 2 anzi, per un ascoltatore, e allora chi sentiamo? Luca da Roma. Prego. Buonasera, allora, il mio intervento riguarda la questione Belpietro e dunque la vicenda di questo falso attentato. Io penso che in questo paese siamo ormai ad una sorta di emergenza democratica a cui non sfugge neanche l'informazione, nel senso che il berlusconismo fa danni in tutte le direzioni, il giornalismo asservito al berlusconismo non fa eccezione. Belpietro come Feltri si comportano da giornalisti di secondo ordine, il loro non è giornalismo, è giornalismo spazzatura, perché il giornalismo si fa con le fonti prima di tutto, e allora Belpietro dovrà rivelare le sue fonti, altrimenti dimostrerà ancora una volta di aver, come dire, seguito gli ordini del signore che lo tiene sul libro paga. Del resto lui non è nuovo a bufale di questo genere, perché anche il suo attentato, presunto attentato, mi sembra che non abbia dato nessun tipo di riscontro rispetto al racconto che lui ha fatto. Questo è un fatto molto grave, perché con l'informazione e sulla base dell'informazione si costruisce anche come dire, la consapevolezza che conduce poi alla coscienza, e quindi questo è un danno per la democrazia, perché questi sono giornalisti importanti. Allora io chiedo da lettore, non, naturalmente non da lettore di questi giornali, ma comunque da lettore, che siccome è giusto che l'ordine dei giornalisti non intervenga, perché io sono contrario a tutte le forme di censura, chiedo che questi signori abbiano un come dire, sussulto di dignità e si dimettano. Grazie. Feltri avrebbe dovuto dimettersi. Grazie, è tutto per questa sera. È tutto per questa sera. Io ringrazio Riccardo Poli, Giorgio De Luca, Viola Bottoni e Roberto Scaltritti. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 18:30. Buona serata a tutti.